ti hanno chiamato la zanzara, ti sei divertito? Ho mandato a fare in culo anche loro ieri sera, sì, giusto. Ti ho perso, com'è andata Pino? Raccontacela un po', dai. Ma niente, poi dietro Cruciani, io parlavo con Cruciani, c'era uno e non ho capito chi era che sparava cazzate a manetta. Minchia, l'ho distrutto proprio, ma che cazzo vuoi? Mi diceva, tu vai in giro con la tua chitarra, ma quale chitarra? Io ho lavorato 35 anni fa, coglione, e tu che sei lì a prendere uno stipendio a fare un cazzo a dire stronzate, e magari lì c'è anche tuo figlio e tuo nipote che lavora, coglione. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Basta con questa paura. Basta, dobbiamo reagire. Ci stanno infinocchiando. Parte da lontano questo disegno strategico di annientare il nord, in particolare il Lombardo-Veneto. Svegliamoci, non abbiate paura. Io me ne frego del coronavirus. Un po' di febbre, qui muoiono migliaia di persone per tante malattie e nessuno dice niente. Adesso stanno facendo sto casino del diavolo. Bisogna uscire, buttate via le mascherine. Ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? È un bluff, credetemi, è un bluff. Viva l'Italia! E me ne vado in giro senza parlare, senza un posto a cui arrivare. Consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare. È un bluff! Mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare. Basta con questa paura! Faccio finta di non ricordare. Io me ne frego! Faccio finta di dimenticare. È un bluff! Un tranello! Ordito ai danni dell'Italia! Ci vogliono impaurire, credetemi! Sono convinto di quello che dico! Sti infami! Chi è che fa che cazzo di rumore lì? Che non lo posso sopportare, questo silenzio innaturale tra me e te. È un bluff, credetemi! Tu devi finire di scassarti la minchia. Lo dovevo fare a nome di tutti gli italiani! Barisoni gay. Eccoci. David, ci sei o no? Eccoci, ci sei qua. O no? Finalmente Dico venerdì. Ci finalmente sei o no? Ti faccio venerdì. Sentire subito una cosa. Che venerdì tra perché, due ore, perché meno di due ore, fortuna, è tutto finito. Perché per fortuna? Perché meno per di fortuna? Due ore ed è tutto c'è un filo finito. Diretto sul coronavirus o virus, come dice Di Maio. Dai, su, meno di due essere... ore è tutto finito e per un paio di giorni non sentiremo questi miserabili che telefonano all'800 24 00 24. Partiamo subito, guarda, ci sono tre governatori sulla graticola, ci sono tre governatori, tre presidenti della sì, regione. Ho letto l'intervista di Fontana oggi al Corriere, mi è sembrata molto interessante. È morto, la carta è morta, finita, la carta è morta, finita, ma non mi interessa, la carta è morta. Dunque è inutile che mi citi una cosa che è superata. Ma non l'hai morta, letta l'intervista però. Io non leggo, l'hai letta. Sento su internet, non compro un giornale da anni. Ma leggerai. Allora, fermo là. Partiamo appunto da Fontana. Senti, ti leggo l'intervista. Sirida, no, me ne frega un cazzo. Sirida meno della mascherina. Senti, senti, questo l'ha detto dopo l'intervista. Dunque, sei indietro. Sei indietro. Sei morto, come diceva una volta Grillo. Morto, siete morti. Morti siete. In realtà è morto lui perché non si sente più da giorni, da mesi. Non si capisce che fine ha fatto. Ma le aggiungo che purtroppo questa notte è scoppiata un'altra emergenza a Lodi, per cui forse se si ridesse meno dalla mascherina e si guardasse il problema più attentamente, credo che non sarebbe cosa che cioè, sarebbe che è successo a Lodi, Presidente? A Lodi improvvisamente nel pomeriggio di ieri c'è stato un affollamento di ricoveri, 51 ricoveri gravi. Poi dice che rifarebbe il video, la mascherina anche per l'influenza. Ragazzi, non diciamo cazzate, la mascherina è stata un'operazione di immagine ridicola. Abbiamo sentito anche ieri Briatore che ha detto che è una cazzata, una grande cazzata di comunicazione, punto e basta, non si discute. Basta avere il coraggio di dirlo, ho fatto una cazzata. Mettere la mascherina a cazzo quando di cane, che non serve. Quando si è negativi, ma si è collaborato con una persona, quando si è negativi e su. Si è collaborato con insisti una persona che è stata positiva. Insisti ancora. Per difendi l'igiene Fontana propria, bene, ma soprattutto per gli altri. Ma difendilo, per gli altri ha avuto un senso di responsabilità. Ma adesso tu difendi sempre le istituzioni comunque. Certo. Sempre. Beh, no, io no, sempre no. Quasi quando sempre, le istituzioni fanno delle sempre cose per bene, anche se governate dalla Lega, bisogna essere sinceri e dai, difendere il vai, lavoro vai, delle persone vai, che sono vai, serie, non i buffoni. Il primo consiglio che viene dato per evitare, ma quando c'è l'influenza si allora, dice facciamo una cosa, di mi dica una cosa a me proprio personale, ma lo rifarebbe quel video? Forse a questo punto lascerebbe stare. Ma guardi, da un punto di vista personale di convinzione lo rifarei sicuramente. Che vuol dire dal punto di vista personale? È chiaro che vuole dire che ha fatto una cazzata, che l'immagine no, è stata quella vuoi, là, no, è stata negativa. L'immagine è data al mondo. Allora, un altro presidente di regione, il presidente, il governatore del mondo. Ora io dico, ragazzi, va bene tutto. Ti leggo cosa dice. Va bene, no, stai zitto. Va bene avere paura, va bene. Informazione chiara, va bene avere la prevenzione, quello che vuoi, va bene tutto, ma non puoi dire De Luca, governatore del mondo, mi sei caduto. Chi viene dai comuni in quarantena propongo l'arresto. Propone l'arresto. Vabbè, certo, dai comuni in quarantena vuol dire che non possono uscire, è evidente, no? Ma che propone l'arresto? Ma no, cosa ma l'arresto? Ma la propone, c'è già ragione. Ma libertà, se uno vuole scappare, ma scappi, libertà. Ma che sei pazzo, sei. Ma tu perché sei per il. Ma sei pazzo, sei. Ma no, ma se uno vuole. Ma l'arresto. Ma ha detto che una cosa evidente. L'arresto? Ma è già così. Vabbè, è già. Se uno scappa da un comune, zona rossa, sottoposto ma ai checkpoint. Scappa, dai, ma chi scappa? Ha ragione. Ma chi ha ragione. Scappa? Ha perfettamente ragione. Poi la cosa incredibile è che ci sono persone che provengono dalle aree più a rischio sapendo che per esempio dai comuni in quarantena non si può uscire, esatto, ma non si può neanche entrare. Esatto. Quindi chi si muove venendo da quei comuni compie un reato penale. Esatto. Per quello che mi riguarda dovrebbe essere arrestato. È così. Vabbè, sì, se vieni proprio da Codogno o da tutti gli altri paesi, se c'è sei poco un pazzo da prendere che in esci, giro, ha perfettamente bene, ragione. È sì, esattamente così. L'origine del contagio dei casi a Napoli e Milano. La cosa straordinaria in queste ore è che si sta riproponendo il classico scontro nord-sud che sembrava ormai dimenticato, diciamo la verità. Ormai sono giorni che si ripropone questo grande confronto nord-sud. Per tutti e tre i casi abbiamo rilevato che l'origine del contagio è relativa a viaggi nell'area milanese. Quindi diciamo il focolaio rimane sempre quello, l'area della Lombardia delimitata in quarantena. Sono 10 comuni della Lombardia, uno del Veneto. E poi c'è Zaia, governatore del Veneto. Abbiamo visto tutti come i cinesi mangiano i topi. I cinesi che mangiano i topi. Zaia va all'assalto dei cinesi, amico mio. Ecco, questo all'assalto dei cinesi. Questo mi sembra abbastanza amico incredibile. Mio. Questo mi sembra incredibile invece. Sa perché noi possiamo in questo dopo una settimana 116 positivi, dei quali 63 non hanno sintomi, stanno bene, certo, e ne abbiamo solo 28 in ospedale. Sa perché? Perché l'igiene che ha il nostro popolo, i veneti, i cittadini italiani, la formazione culturale che abbiamo è quella di farsi la doccia, di lavarsi, di lavarsi spesso le mani, di un regime di pulizia personale che è particolare, anche l'alimentazione la pulizia, le norme igieniche, il frigorifero, le scadenze degli alimenti. E lei dice, ma cosa c'entra? C'entra perché è un fatto culturale. Io penso che la Cina abbia pagato un grande conto di questa epidemia che ha avuto, perché comunque li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o altre robe del genere. Mangiano i topi vivi e altre cose del genere. Noi abbiamo il frigorifero, però non è sbagliata come cosa. Cioè, adesso chiaramente il presidente della regione non le potrebbe dire queste cose, i cinesi che mangiano i topi, vorrebbe dire tutto triturato, come giusto che sia. Beh, il titolo dunque tu, i cinesi non... mangiano tutto, è incredibile mangiano come i topi. Tu sostenga delle cose pararazziste, ma non so se neanche razziste, ma come queste, ma cioè, è razzista, le difendi. Questo è razzista, queste le difendi, ma questa è cioè, difendi queste cose, ma che non aggiungono razzista. Nulla alla questione del dramma in corso, non aggiungono niente alla questione, ma no? Questa è razzista. Quindi tu difendi questo e non difendi invece il governatore della Lombardia che ha cuore la salute dei, cioè è incredibile. Ma quella come è una cosa razzista. Difendi solo le follie, cioè le cose più folli che vengono dette le difendi a prescindere. Ma tu sei pazzo, cioè questo qua ha detto una cosa che tutti quanti sanno, sì, che ma i cinesi mangiano bisogna... delle cose a cazzo di cane. Vabbè, ma questo sì, è allora, il punto. E quindi e dunque, qual è la questione? E molto probabilmente l'epidemia è nata da cose di questo sì, tipo. Sì, ma poi dopo chi l'ha portata qua? Cosa vuol dire? Vuol dire? L'ha portata chi vuol dire? L'ha portata perché si è diffusa. Ma dopo, i virus purtroppo del in un sistema come allora, questo si diffondono velocissimamente. Allora vabbè, la Cina non c'entra un cazzo. Allora, ma certo che c'entra, è nata lì, è nata lì, d'accordo. Vuol dire alla fine della... Più le cose sono sparate, più ti piacciono le difendi. Altre cose ragionate e intelligenti come quelle di Fontana, siccome sono intelligenti, no, ma cosa, cagliate. Ma posso appoggiare la mascherina messa in televisione terrorizzando la popolazione? Certo, su nulla. Non ha terrorizzato nessuno. È un senso lui di responsabilità di uno. È sano. Sì, ma si può e trasmettere. Si mette la mascherina. Ma potrebbe contaminare. Dai. Perché come hai studiato e sai, Zai, anche uno sano può essere che portatore. Un governatore non può dire, ma ha detto la sostanza che da noi c'è un sistema, diciamo, di igiene superiore, tranne il sottoscritto. Sistema di igiene superiore, e mentre in Cina no, questo è il punto. E in Cina se mangiano qualsiasi cosa. Questa va bene, non va bene, è che ha descritto la realtà, non è che ha descritto non una faccio, cosa folle. Allora il Veneto non faccia più affari con la Cina. Il Veneto, no. La regione, gli imprenditori veneti non facciano più affari con la Cina, visto che è sporca. Scusi, come fa il gelato di Vissani? Serve per renderlo più morbido, più pastoso. Ma che cosa? La fregna esorda. La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Dove sei, Veneti? Tu cornuto era arrivato e era sciatto ricetta fin a Milano come ne rompo cazzo qua ne torno su di poi qui ci è infettato un culo e manco coro lo sapono ho trovato ricetta venne a Lizzano non avevano neanche le muore ma veramente tra come a chiudere le porte Lizzano ma non va a fare secchio nessuno perfetto. Adesso fra poco ti faccio ascoltare una cosa di Maurone da Mantova che ha detto che trattiene il respiro davanti ai cinesi. Lui di fronte ai cinesi trattiene il respiro. Ma non c'è bisogno, sono loro che trattengono il respiro. Esatto, sì. Sono loro che trattengono il respiro per quanto è grasso e sudato. Tu dici che è più pericoloso Mauro da Mantova per l'igiene pubblica che i cinesi oppure uno che ha il coronavirus. Ma senza ombra di dubbio, ma questo senza ombra di dubbio. Cioè, spargi idiozie, veleni, cose. È molto allora, credo nella giornata di ieri c'era la signora, cioè la signora Murgia, la signora Michela L'ottima, Murgia, la scrittrice, scrittrice Murgia, eccetera. La grande scrittrice. Che di grande scrittrice? Scrittrice, direi. Una delle più grandi scrittrici italiane. No, una scrittrice. Non cominciare a dire. Non hai mai letto niente di lei. Nulla. Una delle una più scrittrice, quindi sei ignorante. Una delle più grandi scrittrici della materia, italiane. Sì, della Murgia sono ignorante. Della Murgia, sì, non ho mai letto un grande libro della Murgia. Di lei sono ignorante, sì. La signora, ma non lo so, male o bene, non ho scritto, non ho letto mai un cazzo. Parli di lei senza aver letto. Sarà mica un delitto, non è un delitto. Parli di lei senza aver letto niente. Che le città sono libere, c'è più, c'è meno traffico, dunque questo virus può durare ancora un po', secondo lei. Ora io dico una cosa, va bene tutto, per carità, si può giocare, scherzando, lo facciamo ogni giorno, però quando queste cose qua vengono da qualcuno che usa il politicamente corretto di una persona, capito, buona per quelli che ti danno sempre delle lezioni di morale anche sul linguaggio, poi uno ti mette a scherzare così c'è più traffico, credo che fosse dalla Bignardi, e c'è meno traffico, si sta meglio in giro, per carità, va tutto bene, però quando viene da queste persone qui un po' ti fa pensare, e no? Perché mai? Ti fa pensare, perché mai? Vabbè, perché mai? L'avesse detto leggiti il libro Salvini, istruzioni per l'avesse diventare detto fascisti. Salvini, leggiti istruzioni per diventare fascisti, leggiti il libro istruzione per diventare fascisti, ma cosa fascisti. C'entra? Ma chi leggiti se ne frega? Leggi i suoi libri, capirai molto di chi è, ma della chi grande spettrice che è. Vabbè. Viaggiato comodissimamente in un aereo semivuoto, sono arrivata in una città senza traffico, le persone normalmente non riesco a fare un passo, invece devo dire che può durare un altro po' questo virus. Vediamo, così dai. Mi sembra... diciamo che ci sono dei pro e dei contro. Se il risultato è la vivibilità, insomma, delle strade, io ci metterei la firma. Cioè, l'avesse detto qualcun altro? Tu avresti detto, una frase disgustosa, una frase fuori luogo. Perché è importante chi dice le cose. Dai, ma non dire stronzate. Sì. Essendo con una questo che sono tutti assolti sua... a sinistra. A sinistra sono tutti assolti. Tutti assolti per definizione. No, dipende, per definizione. Però, dipende, dai, dipende. Su. Ma conta la storia delle senti persone. Senti Feltri, il virus ci ha dato una mano a far sparire le sardine. Mo questo che cos'è? Mo questo che cos'è? Una semplice cazzata. Questa è una semplice cazzata. Questo virus ha fatto anche qualcosa di buono, parliamoci chiaro. Per esempio ha eliminato le sardine, delle quali non si parla più se non dalla Maria Filippi, con tutto il rispetto per la signora che è bravissima, però quando uno finisce ad Amici, invece che andare in piazza o andare in Parlamento, evidentemente vuol dire che è in punto di morte. Quindi il virus qui ci ha dato una mano. Poi se ci dovesse dare una mano anche a far andare via Conte, beh, allora non potremmo che festeggiare. Ale virus, avanti così. Allora, questa che roba è allora? Questa è una stronzata classica di stile Feltri. Invece va bene. No, ma siccome è la prassi, quando Feltri è normale che parli così, cioè non neanche mi stupisce. Dai, cioè è una classica battuta alla Feltri, perché Feltri parla così, ma 99 volte su 100 parla così Feltri. Questo è il tema vero. È inutile che parliamo tutti, non sappiamo nemmeno fare i giornalisti, dice Feltri. Ah, beh, da che pulpito? C'è lo scienziato che dice A, c'è lo scienziato che dice B, poi non so se siano scienziati o finti tali. Comunque si contraddicono a vicenda e il pubblico resta disorientato, insomma non sa chi dare retta. Questo è veramente uno dei problemi che andrebbe risolto immediatamente. Far parlare solo gente provveduta, no? Qualsiasi fesso che passa, qualsiasi giornalista che dice la sua sul virus. Ma che noi del virus non sappiamo niente, non sappiamo neanche fare i giornalisti, figurati se possiamo fare gli scienziati. Con l'asiatica ci furono 30.000 morti, ma non abbiamo rotto i coglioni come oggi, signor Feltri. Ma cosa vuol dire? Ci furono in occasione dell'asiatica in Italia 30.000 morti, che al confronto delle vittime di oggi tutto ciò era un'ecatombe, era un'ecatombe quella dell'asiatica. Però non abbiamo rotto i coglioni a mezzo mondo come stiamo facendo adesso, insomma. Comunque ragazza, tu critichi, ragazzo mio, i cinesi li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi, che cosa che ha detto Zaia, ma è quello che pensano tutti. È quello che pensano tutti, che il virus sia venuto dal fatto che i cinesi si sono mangiati i topi morti, i pipistrelli, eccetera. Quello che pensano tutti in sintonia con la gente, in sintonia con la gente. Si chiama populismo, in infatti. Sintonia con la gente. Esatto, questa... vanno a spiegare io agli imprenditori ai del Nord-Est che ancora si giochi la partita domenica a porte chiuse, Juventus-Inter, una serie di partite. Meno male. Vado ai matti. Michele Caruso ha chiamato Tagadà. Senti Michele Caruso che chiama Tagadà, numero uno. C'è la linea diretta con l'esperto. Una bella iniziativa. La linea diretta, degli autori del programma. Sì. Una bellissima iniziativa del programma. Senti. Tra cui Giuseppe Ciulla, Tiziana Pannella, Isabella Angius. Mamma mia, che leccate di Stefano culo. Da Benevento, buon pomeriggio. E buonasera, dottoressa Pannella. Senti, vorrei porre una domanda al medico. Gentilmente, io ho mio padre che ha 74 anni soffre di un stato influenzale di una certa entità. Inizialmente sembrava lieve, adesso c'è la febbre e io vorrei sapere, infatti sto un po' così in apprensione, abbastanza a distanza, se si possa trattare di un contagio, perché lui è venuto anche a contatto con persone del nord. Onde evitare che ci possiamo contagiare, possiamo star male, che cosa possimo fare? Io le vorrei chiedere gentilmente. Aspetti, se Stefano, però mi faccia capire, persone del nord che vuol dire? Perché sai, il nord è grande. Dell'Lodigiano, della zona rossa, sì, dell'Lodigiano, per questo io. Temo, vorrei chiederle, ecco la domanda un po' forse più ad hoc, adesso vorrei circostanziarla, che io sono comunque Michele Caruso, sono Mari Petecchiosi, vaffanculo! È uno scherzo, meno male, così non meno c'è questo papà ammalato, meno male, bene così, perché mi stava salendo una certa ansia. Mi dispiaceva per questo signor anziano con la febbre. Michele Caruso colpisce ancora. È veramente un coglione. Pietro da Torino, numero uno, assoluto. Un coglione. Numero uno. Che anche nelle emergenze. Ma soprattutto non ha un cazzo da fare. Pietro da Torino. Vai. Nelle emergenze. Ciao, che emergenza? Ciao, la trasmissione in televisione. Pietro da Torino. E qui si occupa di servizio capito, pubblico. Sti cazzi. Cioè, Pietro c'è da Torino. C'è un esperto e gente che davvero chiama. Ciao, dimmi Pietro, dimmi. Ciao Trux, shalom Parenzo. Dai, allora, shalom. In un paese normale adesso ci sarebbero le dimissioni di Zaia. Le dimissioni di Zaia, ma vai a cagare, sì, vai. Perché lui è un presidente della regione, non si può permettere non di si dire può permettere di dire che cosa? Che i cinesi mangiano anche i topi? Che c'è un problema di alimentazione l'unico, in Cina? I cinesi che vivono in Veneto, per me si possono mangiare qualsiasi cosa. I cinesi che vivono in Veneto, come si devono sentire in questo momento? Lui dice, parla della Cina. Ma io i topi, se uno si vuole mangiare i topi, se li mangiasse pure. Certo, assolutamente. Non sono i cinesi, non mangiano i topi. Ma in alcune zone col cazzo che si lavano, non posso dire che anche in alcune zone del Veneto ci saranno persone che non si lavano. Che uno voglia negare però che ci sono problemi di igiene in Cina o di alimentazione in Cina superiore in certe parti della Cina. Ma i cinesi che abitano in Veneto, senti, come si devono sentire? Ma che cinesi? Quello attaccava la Cina, una parte della ma Cina. Ma i cinesi che vivono in Veneto, come ma si devono sentire? Ma non rompete i coglioni con questo. Della... Tu difendi qualunque cosa sia una follia. Ragazzi, sono dichiarazioni un po', diciamo, scostumate per un presidente della regione, ma è così la realtà. Perché la tutti ci siamo dimenticati da dove viene faccia, tu. Glielo dicesse in faccia al leader cinese quando le imprese venete vanno lì per vendere la loro mercanzia. Glielo dicesse in faccia. Fermi tutti. Il segnale orario vi è offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. Axerta.it. La zanzara. Oh no, la Mukina è finita. Ci penso io, va. Ecco Mukina. Già lo usavo, ma adesso di più. È perché tutto questo allarmismo, che stanno dando. E la gente si sta provvedendo di tutte queste cose, ma... Basta lavare le mani, secondo me. Non ho preso niente, né mascherine né niente, voglio morire. Voglio morire. E la gente... Già lo usavo, ma adesso di più. La mascherina no. La mascherina no. Già lo usavo, ma adesso di più. Già lo usavo. Io sono mangiato le cose quando stavo con le cose, polpe, pesce. Perenzo. Madonna. They like to drink, they like to smoke, they like to eat, when they eat it's till they choke. They like to fight, they like to steal, they like to lie and cheat then pretend it's real. Ciao Cruciani, Dai, passa da Venezia. Beh, adesso. Qua il carnevale è finito. Lo so. Anzi, come sai, è stato fatto finire anzitempo, ma la frittella è sempre calda. Dai, vieni. Silenzio, la vecchia! Arezzo, un italiano ha contagiato la Nigeria. Questa è punizione divina. Beh, incredibilmente vero, un italiano ha contagiato la Nigeria, sembra al contrario, no? Nemesi storica. Cioè noi... No, non è il contrario, è l'ignoranza che fa dire il contrario, è l'ignoranza dei tuoi amici di Libero, di alcune persone, è l'ignoranza. Sulle malattie, dici, dov'è Borgonovo, dici, dov'è Borgonovo? Borgonovo, io mi sono vaccinato a Borgonovo, ho deciso di non pronunziare più il suo nome. No, tu dici, anzi, uno che parlava di malattie portate dall'Africa. Bravissimo. È di una stupidità inaudita dire gli immigrati portano le malattie. Comunque, a proposito, in un mondo globalizzato non sono gli immigrati che portano le malattie. A proposito dei topi e di Zaia, che è un po' l'argomento principale della serata, associato, ragazzi. Borgonovo ai topi e non c'entra niente. Ti querela, stai attento. Ma che c'entra? Perché tu hai detto topi. Ho semplicemente cambiato argomento. A proposito, Borgonovo. Dai. Guarda, stai attento perché andatevi a vedere i topi, andatevi a vedere un filmato del Daily Mail, sì, sui topi mangiati. Vai, quando tu e il tuo amico Zaia portate le aziende venete in Cina, quando tu e Zaia e la Lega andate in Cina con le aziende venete, io non ci vado da Milano, spin doctor della Lega. Quando andate in Cina con le aziende venete che giustamente vogliono vendere ai cinesi, che succede? Fagli vedere il video di quello che ha detto. Quando andate in delegazione in Cina per vendere le vostre merci, Ma io non ho nessuna merce, vai col video, spiattellaglielo in faccia, digli: cinese di merda, tu che mangi il cane, perché compri i miei prodotti? Vai lì! Vai, quando vai in Cina, senti, quando vai, adesso quando non si vai può nemmeno dire la verità. Quando non vai si può a nemmeno Pechino, dire la verità su quello che accade in Cina. Quando vai a Pechino con le delegazioni di imprenditori, voi mangiate la merda. Glielo devi dire, però. Ipocrita, sentilo. Glielo devi Conte, dire. Conte. Dite. Comunque, volete sapere la mia opinione su Zaia? No, sì, Zaia, vogliamo sapere. Zitto. Allora, Zaia è una persona esplicita. Se deve dire che una è una merda, gli dice che è una merda. Ma è un presidente di regione. Conte dei miei coglioni. Guarda, ascoltami, Parenzo, ragiona qua a testa. Ti sei scrittore, ragiona un momentino. Dolfin, dammi retta, vecchio. Sito la banda demona. Tu non sai. Danneggiate l'economia del Veneto. Zaia non ha detto che i cinesi sono di pezzi di merda oppure sono zozzoni. Ci sono delle regioni della Cina che sono come indigeni, è vero. Non c'è il Gabbana, per molto meno hanno perso miliardi, per molto meno, attento, per molto meno. Dolce Gabbana è solo un'azienda privata. Somari che non siete altro. L'unico personaggio, mamma mia, Marco Polo. Ti sto, ma Marco Polo, Dolfin, vai mona, dammi retta, Dolfin. Mamma mia, dammi retta. Sempre così. Dolce Gabbana, che sono un'azienda privata. Dolce Gabbana, hanno perso milioni di euro. Ma cosa avete? Cosa c'è sto odio verso il presidente della regione? Ma quale odio? Zaia è una bravissima persona. Ma certo, io lo conosco. Ma tutti sbagliano. Conosco, è una bravissima persona. Ha sbagliato. A differenza di altri presidenti di regione. Allora, Conte, la realtà è che la realtà è un'altra cosa. Dimmi un'altra cosa che voi non avete detto. In questo momento gli italiani sono trattati come terroristi. Siamo noi terroristi. In Israele non possiamo andare. C'è prudenza. Di là non possiamo andare. Cioè, cosa certo, siamo? Vai. Ma ci trattano. Dopo noi siamo i razzisti che riceviamo tutti quanti e diamo ospitalità. Abbiamo i militari che tengono la democrazia nelle regioni di guerra. Giusto, e li mandiamo giusto, lì, giusto. Li facciamo anche morire. E non ci danno un cazzo, ci trattano come dei pezzi di merda. Ecco che è ora di finirla con queste cose qua. Ecco che avete rotto i coglioni. Ha ragione il Conte. Scrivete libri, va, che è meglio. Che cosa vuole che vi dica? No, ma allora su questa basta, cosa qua, no. Conte, scusa, lei ha perfettamente ragione sul fatto che Zaia è il presidente di una regione, perché però ha descritto la realtà. In alcune zone della Cina sono come indigeni, ma non è... Esatto. Noi vorremmo che non fosse così, è la verità. È così, non è che dovete dire di niente, perché in Mongolia, la parte confinante della Cina, vivono come i mostri. Come i mostri. Che è normale. Signori della Mongolia. La Cina non è diventata civilizzata. Ma cosa vuol dire? No. Quando vi invitano a voi imprenditori, tu non sei un imprenditore perché non sei niente. Noi parliamo prodotto. Gli imprenditori veneti ai quali io mi rivolgo lo sanno meglio di me. Cosa c'entra? Cosa devo dire? Cosa dire che i cinesi non perché vuoi mettere nella bocca delle parole degli imprenditori veneti che non gli è così? Gli imprenditori veneti, che sono persone serie, vanno in Cina e quando fanno gli incontri ufficiali con i cinesi sanno perfettamente che hanno tradizioni e usi diversi dai nostri, ma non si permetterebbero mai di dire siete degli zozzoni, perché più zozzoni dei cinesi è Cruciani, che rivendica di non lavarsi mai. E ha fatto un affronto ai cinesi veneti, quelli che vivono in Veneto. 30 anni fa i cinesi, quando giravano per le strade, sul pantalone avevano una sbrega di culo che cadavano dove che volevano e pisciavano. Che verità. Ma Cruciani non si cambia le mutande mai! Diglielo a Cruciani! Scusi, Conte, non ho capito questo episodio qua. Che cos'è? 30 anni fa che succedeva? Che persona schifosa. Che i cinesi giravano nelle città con dei pantaloni dove che avevano... Ma che generalizzazioni sono? Avevano praticamente... Ma che stupidaggine è? Sui pantaloni cagavano per le strade. Ma Cruciani non si cambia le mutande. Cruciani non si cambia le mutande. Si cambia le mutande ogni due giorni. Perché non glielo dice anche a lui? Ma lui sappiamo cos'è. Sei uno schifoso. Ma no, ma non ho capito perché uno non si può cagare. Che c'è? Non è mi cago addosso, però. Non mi cambio le mutande. Sarai sporco. Sei uno schifoso. Volevo sapere un'opinione da te, Parenzo. Sì, secondo te, in questo momento, gli italiani sono bistrattati? Ma amico mio, ma certo, sotto gli occhi di tutti, come dice lei, si incazzi pure lei. Se c'è un problema, lo si risolve, no? Adesso sul vino. Allora va bene, ma hai rotto i coglioni. Vai a vo e non rompermi le palle. Ma cosa c'entra? Ma perché dovrebbe... Se c'è un problema di contagio si risolve, no? E quindi si chiudono le zone. Ma sta attento, hanno paura di un raffreddore. Vai. Si fanno rompere i coglioni per un raffreddore. Vai Mona. Magari, Parenzo. Manco quella frequenti più. Sai solo telefonare alla Zanzara. Conte, il Conte che telefona alla Zanzara. I conti non stanno con la plebe. I Conte stanno con i nobili. Tu non sei Conte. Non è vero un cazzo. Senti come parla il Conte. Il vero principe sta in mezzo alla gente, ai poveri, ai bastardi. Ma quale Conte? Il Conte di Paperino. Il Conte di Paperino sei tu. Il Conte di Paperino. Ti insegni a scuola di nobiltà. Il Conte di Paperino sei. E ti scrivo. Ciao Conte, ti abbraccio. Ciao ragazzi. La Zanzara. Vi parla il Conte Giancarlo Dunfin da Venezia. Dati i dati che sono arrivati e che noi siamo trattati, noi italiani, come di pezzenti miserabili, untosi e pieni di febbre, di malattie, è giunta l'ora di dimostrare che il popolo italiano è uno solo e unito. Comprate solo prodotti italiani e che vadano a fare in culo quelli dell'Europa, dato che ci trattano come di pezzenti. Solo prodotti italiani. E facciamo vedere chi siamo, perché noi da mangiare e da godersi le nostre passeggiate e bei panorami viviamo, anzi usate anche meno benzina, e per chi ha i soldi alle Cayman portateli via, perché non potrete più andarli via a prendere, quelli vi inculano anche i soldi, perciò siate solidali col popolo italiano, solo cose italiane! Sono andato al supermercato, sono passati due cinesi, sì, nella mia corsia, io tra cenucci respiro, ma non perché sono cinesi, perché non so dove, da dove sono venuti, se erano qua e non si sono allontanati dall'Italia o se sono tornati da qualche settimana, come faccio a saperlo? Allora nel dubbio ho tra cenucci respiro e mi sono girato dall'altra parte. ognuno porta col suo mulino, Comunque Davide, questo è, questo è Morone da Mantova. Questo è una persona che tecnicamente è un disturbato. Non ci sono altre, lo sai anche tu. Secondo te? Lo sai che tu te ne approfitti, te, questo è molto brutto. Approfittarsi delle persone malate è brutto. Tu ti approfitti di tu lo sai che esiste, tu lo sai che tu che gli hai dato delle disturbate dell'instabile. Tu sai che esiste una fondazione Mauro da Mantova. Ti giuro. Chi diffonde questi audio c'è è la, fondazione, c'è la fondazione Mauro di Dulbecco, la fondazione di Veronesi, di Dulbecco, non di quel mentecatto lì. Di che stiamo parlando? Fondazione Mauro da Mantova. Da Ginevra, il responsabile mondiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Chi se ne frega? Da Ginevra in diretta. Io lo manderei Luciano in onda dalla provincia della radio di Belluno. Ma vaffanculo. Tutto in inglese Luciano, per capire che cosa provincia dice. Di Belluno. Possiamo mandarlo per cortesia. Sky TG24 ora. Da Ginevra in diretta, ma non ci il presidente Luciano della... provincia di peraltro Belluno. Peraltro è un nero, sì, sai sì, che è nero? Etiope, credo, Eritrea, ma c'è da fidarsi secondo te? Luciano perché provincia nero? Di Belluno. Io mi fido. Ho detto solo che è nero il presidente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ditemi voi se è normale che un negro sia il presidente, un etiope con tutte le malattie che ci sono in Etiopia, voglio dire. Quindi come si fa a fidare dell'Organizzazione Mondiale? Poi Nicolo Feltri è un razzista, ma l'Etiope è un razzista perché è nero e si occupa di sanità. Sarebbe come mettere un gatto a guardia di un ristorante di pesce. Dai, mi sembra. Voi diranno Feltri è esagerato. Scusi, Feltri, io domani pubblico la faccia di questo negro. Scusi, Feltri, e scusi, dico: Feltri. Questo negro governa la sanità mondiale. Ecco perché ci sono le infezioni nel scusi, mondo. Feltri, scusi, no, scusi. Ma fa culo, mi chiamate per non parlare. Dai. Ha detto, via, ha detto tutto, ha detto Luciano della provincia di Belluno. Dai, pronto? Luciano, dimmi Luciano, dimmi. Beh, spero intanto che quel vaffanculo non fosse diretto a me. Ma anche volendo, dipende da cosa dici, potrebbe no, anche vabbè. Finire con un vaffanculo. Io, senza dubbio. No, vabbè, speriamo di no. Comunque, volevo esprimere un concetto, ma qual è fondamentalmente il concetto? Il concetto è che vi ascolto, quindi la vostra trasmissione è divertentissima. Vabbè, allora, nonostante i vostri eccessi è tragica, ma siete non è divertente in tutti e due gli estremi, ma praticamente siete la fotografia di quello che è oggi l'italiano medio, cioè ascoltato è un grande complimento, è un grande complimento questo, ma, Luciano, non so, no, grande complimento. Non ho dubbi, ma io vi ascolto allora perché per questo. Non ho capito qual è il problema. No, non accetto il fatto che praticamente sia considerato l'italiano tu che sei tu che cosa sei invece, l'elevato, ti vuoi elevare, ti vuoi, no, vuoi voglio, essere considerato più, elevare, più acculturato, più capito, no, uno no, che ne sa no, di più no. Lasciami esprimere prima il concetto, poi dimmi quello che vuoi. Però di fronte a una situazione in cui è stata costruita, se vogliamo dire tutto quello che sta succedendo, l'italiano medio ha paura di tutto ormai, no? E questo ma non tu è una sei, cosa che... tu non appartieni all'italiano medio, tu non appartieni all'italiano medio. Allora. No, a me girano i coglioni sentire Salvini ogni giorno con i suoi selfie a rompere il cazzo su chiude dei porti, quando poi praticamente e poi dice aprire tutto, invece, giusto? E poi dice, è giusto. Esatto. E poi dice bisogna riaprire tutto, bisogna far circolare i soldi, l'economia. E gli eccessi sono poi quelli tu invece però la cosa interessante medio sì, che chiama vabbè Luciano io non ho capito bene tu non ti Luciano, senti Luciano sappi una cosa non che ti senti di appartenere all'Italia media mancano aspetta. I kit per fare i test no, per il coronavirus sì, in California Luciano, che è un posto civilissimo dimmi, tanto allora. Per dire dell'emergenza tu non ti senti di appartenere all'Italia Londra valuta la chiusura delle scuole pilotata, sbagliata, portata portare l'italiano ad essere debole. Pauroso. E controllabile. L'Italia della paura. L'Italia della paura. Ci sono un gruppo di elevati che l'Italia ci dicono, delle precauzioni. L'Italia non deve avere sì, paura. No, ma in un paese sano sento dire spesso questo termine ciao, qui Luciano, praticamente ciao, no? Luciano, ciao. L'Italia delle precauzioni. A proposito di Italia media risentiamo la signora quella di Ischia vai da Ischia direttamente da Ischia di fronte a un pullman di gente alcuni venivano addirittura da Genova altri non so dove ma non dovevano entrare a Ischia Questo è quello che sta succedendo sul porto di Ischia. Sono le 18 di domenica 23 febbraio, pullman pieni di persone provenienti dal Veneto. Eccoli qua, sono pullman pieni. Di dove siete? Di dove siete, signora? Dica. Liguria, meglio ancora. Brava, brava, brava, bravissima. Eccoli qua, sono tutti provenienti dal nord Italia, stanno sbarcando sull'isola d'Ischia, ci hanno chiamato terroni per tanti anni e oggi sono qui a farsi la vacanza quando dovrebbero stare in casa loro in quarantena. Perché io ho il diritto di manifestare il mio dissenso, ha capito? Controllate da dove vengono, fatemi rispettare la legge, non facciamo i pagliacci, perché qua non c'è da scherzare, sulla vita delle persone non si scherza, questo è un problema serio e non c'entra niente il razzismo, razzisti siete voi che ci avete chiamato terroni per anni e anni. A Ischia non vogliono la gente della Lombardia e del Veneto, incredibile. Questa si chiama Baldino, questa signora è diventata a un certo punto una specie di capopopolo. Adesso ti faccio conoscere una persona che magari chiamiamo, che si chiama Cappellani. Lo conosce uno scrittore, si chiama Cappellani, siciliano, il quale ieri sera ha detto che secondo lui praticamente bisognerebbe impedire l'arrivo dai lombardo-veneti in Sicilia. Ti dico così. Vabbè. Stranamente vi trovo tutti molto buonisti. Mi sembra di essere capitato in un covo di comunisti. È l'allarmismo e non bisogna parlare male. Capisco che ci sono dei problemi economici al nord, ma a noi che ce ne frega? Se si tratta di migranti, portano scabbia, tifo e cose, e voi lombardi veneti ci avete il ceppo e dobbiamo fare finta di niente. Ha ragione Belpietro quando dice il virus non è che chiude alle 18, dalle 18 in poi inizia ad aggredire, chiudete i bar anche la mattina e soprattutto non venite qua in Sicilia. Poi questa ti piacerà, senti questa che ti piacerà su Feltri, senti. Essere inginocchiati rispetto al fatto che voi al nord avete il virus, i migranti che il virus non ce l'hanno, siamo tutti spaventati, e voi? Ma forse sarebbe meglio, ma chiudiamoli questi confini, non venite a fare, perché tanto migranti portavano malattie, chi ha portato la malattia in Sicilia? I turisti di Bergamo, dove abita Vittorio Feltri. Ma fantastico. Signor Cappellani, Ottavio Cappellani. Patrizia da Milano, ti piace? Adesso lo chiamo fra poco. Patrizia da Milano. Ciao Giuseppe. Questi non hanno capito che se non fanno venire la gente dal nord al sud, mandano in malora le loro stesse regioni. Ma che cazzo gliene frega? Dimmi, Patrizia. Quante gente che non si muove. Che ci sono. Stasera non volevo incazzarmi con Parenzo, invece? Ma perché aveva iniziato bene e ha finito male. Insomma, prima di tutto volevo intervenire per due casi, quello di Zaia. Zaia, che dici con cui sono d'accordissimo, perché le usanze di questi cinesi sono orripilanti. Ma questo è un dato di fatto. Alcuni cinesi, una parte dei cinesi, piccolo grande che sia, dove tra l'altro pensano che sia nato il ceppo, se mangiano qualsiasi cosa, per me possono fare quello che vogliono. Per non parlare del sugiciume che hanno nelle loro cucine dei ristoranti. Vabbè, quello che ma c'è. Ma dove? Quello adesso. Se lo sa, lo segnali. No, quello non si può se dire. Lo sa, lo segnali. Pieno di ristoranti italiani che vengono segnalati. Pieno. Io ho un ristorante, io ce l'ho e so i controlli che fanno. Bene, li fanno anche dei ristoranti cinesi in Italia. Non dica stronzate, li fanno anche. Le regole valgono per tutti. Le regole valgono per tutti. L'ASL controlla i ristoranti italiani come quelli cinesi. Tant'è che ci andiamo a mangiare con sicurezza. Ma non dica stupidaggini. Ma non dica stupidaggini. Ma non dica stupidaggini. Ah, cioè lei sta dicendo che l'ASL non controlla i ristoranti cinesi? No, non li controlla. No, ma questo è gravissimo. Questa è molto grave. Io ho ricevuto Giuseppe da Milano, grazie. Andassero in AS a controllare il tiramidux lì, quel ristorante di quel fascista. Andassero tutti in AS a controllare. fare, che quello lì è un evasore fiscale, non fa. Ma che c'entra adesso? Non, è un evasore fiscale dichiarato, anche dichiarato da lui, perché ha detto pubblicamente, e sono sicuro che anche nella cucina si mette le dita al naso e al culo prima di fare il suo tiramisù. Andate a controllarlo. Ma che anziché c'entra? Dire sui cinesi, andate a controllare il ristorante, come si chiama quel fascista maledetto, come si chiama? Polegato, Polegato. Polegato. Andate, si metterà i diti, le dita nel naso, oltre che nel culo, prima di cucinare il tiramisù. Tirami Dux. Vergognoso. Tirami Dux. Chissà dove si mette il dito. Dici, chissà dove se lo mette. Dici che Fedriga dovrebbe andare lì. Dovrebbe andare. Ma mandate gli ispettori nel ristorante del fascista. Dimmi Giuseppe. Altro che i cinesi. Che sono super controllati perché sono cinesi. Perché li controllano di più degli altri. Dimmi Giuseppe, dimmi. No, niente, mi sembra la serata delle generalizzazioni, partendo da Zaia, tutta sta gente che sta chiamando a fare generalizzazioni, i cinesi, 1,5 miliardi di cinesi, 1,5 miliardi di cinesi mangiano i topi, cioè ci insegnano la pulizia se vogliono, la stragrande maggioranza dei cinesi, basta, dai, basta. Ma cosa c'entra quello? C'entra, Giuseppe, c'entra, no, può un presidente di regione dire una corbelleria del genere? La può dire? Ha detto una stupidata, sì. Giuseppe, è quello. Ma è la... dove? Ma dove? Ma dove? Ma tu dove? Ma vai a dove vedere quello che vivi? Succede in alcune regioni dove della Cina. Vivi? Ma che cazzo dici? Ma poi per me posso. Intellettuali di destra. Io intellettuale di destra. Ma che dici? Montanelli avrebbe mai detto una cazzata del genere? Che me ne frega a me di Montanelli? Ma che c'entra? Bergamo, te non sta bene e tu ci io non capisco se ci sei o ci fai. Cazzo, ti ascolto da anni. Ma devi stare tranquillo, innanzitutto devi stare tranquillo, non mi devi rompere i coglioni primo. Ti diverti a farci incacchiare, a dire ste stronzate. Giuseppe, il presidente della regione Veneto ha detto una cosa. No, stai tranquillo, ha detto. Quello è un altro discorso. Politicamente stai zitto un attimo, giù un attimo. Allora Giuseppe, stai tranquillo. Ha detto una cosa molto semplice, ha detto. I cinesi mangiano i topi e altre cose. Ovviamente voleva dire una parte dei cinesi, non è che voleva dire tutta la Cina, mi pare evidente. Sicuramente ha commesso un errore di comunicazione come l'altro campione del mondo del presidente della regione Lombardia. 30 anni fa, non sono passati così tanti anni, alla visita dei tre giorni c'erano i medici a UC che a un certo punto si sono messi in capelli, le mani nei capelli a urlare: vi dovete lavare l'uccello! 30 anni fa in Italia, a Milano. Ma cosa c'entra 30 anni fa? Ma cosa c'entra 30 anni fa? Rincoglionito 30 anni fa. Ma cosa c'entra 30 anni fa? Quelli che non si lavavano l'uccello venivano giù dalle valli, dai. Ma dai, ma fai la persona intelligente quale ma sei. Cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Cosa giusta? No, ma ha detto la realtà, ma che giusta? No, i cinesi. Cosa? Allora il livello di igiene della Cina, il livello di igiene della Cina. Dunque insieme alle signoratrici. Buonasera Giuseppe, scusa. Il livello di igiene della Cina è uguale a quello della Lombardia e del Veneto, di una parte della Cina, uguale a quello della Lombardia. Sì, bravo, sì, potrebbe benissimo, essere benissimo. Meglio. E allora vai in Cina. E non rompere i coglioni, vai in Cina. Vedere. Ciao. Ma non rompere il schiatto te, ciao Giuseppe, ciao cosa pazzesca, guarda, è pazzesco, nemmeno la realtà volete accettare. No, sei tu nemmeno che... la realtà volete accettare, guarda, il nemmeno danno la realtà. Che quella dichiarazione di Zaia ha creato altro che la mascherina di Fontana. Quella roba lì inutile ha creato due danni: uno ai cinesi poverini che vivono in Veneto e che non hanno nessuna colpa e che si sentono chiamati in causa dal presidente della loro regione, come degli cinesi che stanno come in degli zozzoni, come dai, perché sì. Poi dalla stura a questi altri stronzi che telefonano qui spalleggiati da te, che dicono che gli stati cinesi sono sporchi. Ma no, se ma li conoscete, denunciateli, le là. Regole valgono per tutti. Primo, secondo danno fatto è quello che le imprese venete che esportano in Cina sono le prime a sapere che quando vanno là, non solo perché devono fare affari con il governo cinese, che sicuramente non è democratico, ma perché conoscono meglio di noi la Cina, sanno perfettamente che quello che dicono queste persone sono delle stronzate. E con noi lo scrittore Ottavio Cappellani. Buonasera, buonasera. Buonasera. From Catania. Innanzitutto devo dire che sono d'accordo con Parenzo, che a quest'ora telefono i pazzi, infatti a me chi mi chiama Cruciani. Beh sì, questo tu dici c'è un pazzo che ti chiama, dici. Che chiamano chiama? Solo. Questo, cioè, Parenzo, a quest'ora chiamano solo i pazzi scatenati, infatti chi mi chiama a me all'orario dell'aperitivo Cruciani. Benissimo, dunque, ma io sono contento di essere... Parenzo, scusami, tu hai notato il comunismo... buonista di Cruciani. Ma non so se lo chiamerei comunismo buonista, cioè non creerei ulteriore confusione in ma questo mondo. Ma perché comunismo buonista? Non io ho capito. Sono preoccupato del comunismo buonista di Cruciani, sì. Che di fronte a un'emergenza in cui i lombardi veneti evidentemente non si lavano le mani, si infettano tra di loro, eccetera, eccetera, vengono in Sicilia, si infettano e per giunta chiedono gli aiuti allo Stato. Io direi che lo Stato dovrebbe dare gli aiuti a noi imprenditori del Sud, che andremo presto ad assumere questi operai ex imprenditori del Nord. Oh, scusami, Ottavio, però abbi pazienza. Noi imprenditori del Sud, ma tu non fai un cazzo altro che imprenditore. Che imprenditore sei? Io sono imprenditore agricolo. Sì, io imprenditore. Io produco carrube. Sì, quanto guadagni con le carrube? Cioè, non siamo, siamo sulla rete di Confindustria. Quindi io faccio una bella Confindustria. Smettiamo con questo buonismo di questi poveri operai ex imprenditori del Lombardo Veneto, essendo diventati poveri a causa del coronavirus, adesso voglio gli aiuti che diano agli imprenditori del Sud, che assumeranno come braccianti gli ex imprenditori. Sì, però tu ieri hai detto una cosa veramente non so come fai a pensarla. Cioè tu dici bisognerebbe praticamente bloccare l'ingresso, cioè non far arrivare in Sicilia quelli della Lombardia e del Veneto, dai. Sì. Tu ieri hai detto una cosa molto giusta. Hai una posizione sugli immigrati, che va benissimo. Però io non li voglio, cazzi voi, non vi conoscono le entrate. Il problema è che la comunicazione sugli immigrati in questo momento la fanno sul coronavirus. Ora, casi di coronavirus tra gli immigrati non ce ne sono. Sì, no, ma questo non c'è dubbio, per adesso non ce ne sono. Nei lombardi veneti ci sono. E dunque? Blocchiamo l'arrivo al sud degli... Dobbiamo assolutamente bloccare, chiudere i confini con questi lombardi veneti che non si lavano, le cui cucine dei ristoranti sono in condizioni pessime. Ma scusa, Zai ha appena detto che in Cina si mangiano i topi. Vorrei spezzare una lancia a favore del topo vivo. A favore del topo, topo vivo, se sushi di topo ha il superchè. Fatto alla norma. Il sushi di topo, con la melanzana fritta e la ricotta salata, ha un suo perché. Tu a Vittorio Feltri, per esempio, Ottavio, sì. Vittorio Feltri, lo faresti entrare se mai volesse venire oggi a Catania? Io sono assolutamente spalmato sulla posizione di Feltri, perché Feltri invece una dichiarazione bellissima: me ne foto della Sicilia, perché non voglio andare in Sicilia, io non sto a Bergamo Alta. Dunque, se ne stesse a Bergamo Alta, tu dici... Io me ne foto di Bergamo Alta perché me ne sto a Catania. Cioè, io e Feltri siamo, ci ammiriamo a distanza. Lui se ne sta lì, io me ne sto qui. Quello che mi stupisce è questa deriva comunista buonista di Cruciani, mia, dei leghisti di Confindustria, chiedere le voci, l'assistente allo Stato. Cioè, tu dici, è chiaro che ormai la regione ricca d'Italia è la Sicilia. Cioè, ormai Lombardia e Veneto sono destinate alla povertà. È chiaro che c'è una Sì, però al di là della provocazione, scusami, sì, d'accordo, ma però provocazione? Perché chiaramente non è così, però no, però scusami, c'è una cosa fondamentale. Tu dici, a me non me ne frega un cazzo che muore un bar o che muore un'attività, dei soldi non me ne fotte un cazzo. Tu questo hai detto, A me non me, che muore un bar veneto, ma come un bar veneto milanese se muore, dai. Ottavio, scusa, come sei collegato? Scusa, che sei dal Carrubo? Scusa, metti un attimo per voi che ce l'avete data. Adesso i nuovi ci siamo noi. Metti un attimo il telefono meglio, Ottavio. Metti il telefono meglio, che non si sente. Metti il telefono meglio, scusa. Dico, i nuovi ricchi siamo noi della Sicilia, giusto? Perché dobbiamo aiutare voi al nord? Ma ho capito, ma non è che se muore un bar qua, se muore l'attività economica a nord, muori anche tu di conseguenza. Ma che cazzo me ne frega? Ma che dici? Io sono per il federalismo fiscale. Adesso la Sicilia è una regione ricca e non deve dare una lira al nord, questi poveri. Ma ricca di che? Ma quale ricca? Ma tu hai visto a Ischia danno, cioè c'è gente che si mette intorno agli autobus per non farli venire per non farli sbarcare. Fanno bene, perché dobbiamo aiutare questi lombardo veneti malati non è che la cosa nasce dal fatto che non rispettano. Voi avete fatto questo discorso: è stupido chiudere i bar fino alle 18, perché il coronavirus è attivo anche dopo le 18. Certo. Lo dovete chiudere anche prima delle 18. Ma che anche prima? Non aprirlo dopo le 18, perché Vabbè. Assolutamente pazzi. Ciao, Ottavio. In nome di un buonismo comunista, si siete pazzi. Ciao Ta, ciao ciao ciao ciao, ciao, ciao. Samuel da Verona, vai Samuel, dimmi. Minchia, ragazzi, mezz'ora che sono al telefono, porco Giuda. Sì. Allora io vi dico la verità sulla Cina. Praticamente Cruciani ha ragione e anche Parenzo, avete tutti e due ragione. Allora perché? Innanzitutto, i cinesi ti trovi i treni che vanno a 400 km orari. Non esistono i soldi in contanti, non esiste la carta di credito, pagano con il telefono, anche quando vai a mangiare al ristorante. Questo anche in Italia si paga col telefono, anche in Italia si paga col telefono. In Italia non c'è neanche la carta, se vai al sud non c'è neanche la carta di credito, cazzo. Sì, però in alcune zone non c'è dubbio. No, non solo al sud, non c'entra il sud. Vabbè, allora Samuel? Allora, io sono entrato, allora quando tu entri in un ristorante, spesso e volentieri ti capita di non sapere se esci vivo. Perché sono zozzoni, ma è nella loro cultura. Ma non è vero quello che diceva il tipo di Venezia che la Cina non è che sono tutti indiani e che vanno ma in alcune zone, in alcune zone, ma non esiste, ma come non esiste? Però esiste. Quando vai a mangiare al ristorante non sai se esci vivo perché mangiano di tutto. E allora? Io non ho mai visto comunque mangiarsi il topo, il cane, qualche gatto. Loro lo mangiano. Ma se il gatto lo vuole mangiare anche Cruciani, il gatto. Ma sì, ma schifo. Lo so che guarda, il cane l'ha mangiato anche Cruciani. A me fa schifo, ad esempio. Ma il cane l'ha mangiato. Il primo che mangia quelle porcherie lì è Cruciani. Ma allora, no, mica sto protestando. Io sto dicendo che quella ha descritto la realtà. Infatti, mica sto dicendo che non lo devono fare. Aspetta, Cruciani, aspetta. Quando sono andato in un ristorante che. Sono andato, ho detto vabbè vado in bagno, sono entrato in bagno, c'erano due dita d'acqua dentro il bagno, quindi dovevi entrare in punta di piedi se non volevi mangiarti le scarpe con un po' di taccona. In Cina cazzo, io spesso volentieri sono là e passo anche un mese. Dopodiché esce il cuoco, ok, con il telefono in mano, la sigaretta in mano, non si lava neanche le mani e lui stava dentro. Quello pure in Italia succede, non è che... Secondo me stava anche cagando. Comunque ragazzi, Zaia ha detto una cosa. Zaia non capisce un cazzo. Cioè, ha detto, in Veneto ci sono 116 positivi perché abbiamo un'igiene elevata. In Cina li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi. Cioè con una immagine... In Lombardia vuol dire che ce l'hanno... Con una immagine voleva dire che in Cina ci sono... C'è una condizione igienica inferiore rispetto ad altre parti. Di persone. Ma è normale che sia... Ma infatti ha voluto semplicemente dire che in Cina è nato tutto questo. Da dove è nato? Ma cazzo, ma da dove è nato? Tutto questo ce lo siamo dimenticati? Dalla Cina, ragazzi, su, dai. Poi, posso dire una cosa che lo voglio. Posso dire una cosa? Ma tu che sei venezuelano? A fare in culo. Dove sei? Sì, vabbè, vai a fare in culo tu, incoglionito. La zanzara. Pronto? Guarda, ma vattene a piangule, guarda, a te grindri dici, tu vuoi clandestine. C'è un po' di rabbia, però... Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dica? Ma sulla Santanché? Si ricorda cosa ha detto? Certo. Ecco, che lo vuole ripetere? Perché ha detto che meglio, piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanché? Piuttosto che andare con lei, farei un buco sul cuscino. Ma sulla Santanché? Una vergogna! Una vergogna! No, c'è il problema anche del budget! Oh. Coronavirus, mi dica. Va bene, io sto aspettando che arriva. Comunque io ho già fatto il rifornimento di vino, di carne, salsicce. Se casomai dovrebbe arrivare lei, sono già preparato. Ne vi paurete che non è niente, ne lo volete capire. L'influenza c'è sempre stata e ci sono sempre stati dei morti. Questo è un po' differente dall'altro, ma non è pericoloso. prossimo. Intanto le salsicce stanno in frigo. Salsicce sta a porta, purché che vendi il cibo. Allora, caro Parenzo, oggi questa era una voce dall'Abruzzo, diciamo, possiamo voce, chiamarla sì. così, da un telegiornale locale abruzzese, ti giuro, cioè hanno intervistato un vecchio... Una sentito. Voce dall'Abruzzo. Sì, una voce dall'Abruzzo. Perché ti fa schifo la gente? No, non riesco non a capire, ti fa schifo, a schifo te il fa tuo schifo modo la di gente. Utilizzare la gente. A te fa schifo no, la gente, fa schifo ti, fa schifo, ti fa schifo. Il tuo modo di utilizzare la gente, il tuo modo di utilizzare la gente. Ma figurati. Tu utilizzi queste povere persone. Allora, giochi sulla loro ignoranza. A te farà schifo sicuramente giochi questa cosa qua. Sicuramente se non ti fa schifo la gente ti farà schifo giochi questa persona. Giochi sulla loro ignoranza. Un e giocatore la loro paura. Del Novara Calcio Serie C che oggi ha pubblicato in queste ore, in questi giorni, un discorso del Duce del 1927. Se tu condividi il discorso del Duce del 1927 significa che un po' nostalgico sei, no? E il discorso che qualcuno mi ha mandato sui cinesi. Nei prossimi decenni i cinesi invaderanno il mondo con prodotti a basso costo e le epidemie che coltivano al loro interno. Una cosa detta dal Duce nel 1927 in un discorso che magari possiamo anche ritrovare via audio così per il tuo sollazzo, perché possiamo mandare anche un audio di Sua Eccellenza, caro eccellenza, Parenzo. Sì. Sua Eccellenza. Ora sua questo eccellenza giocatore Benito del Mussolini. Questo giocatore quelle ridicole parate con la gente in piazza, a noi sua onore, a Sua Eccellenza, ridicole vabbè, certo, parate la dittatura, con migliaia per di forza, persone la dittatura, chi vestite cazzo come dei pagliacci con il fez in testa, i calzoncini corti, i giovani balilla dei miei cogliolì radunati in piazza ad ascoltare quel personaggio con quella con quella voce costruita da teatrante di quart'ordine. Beh, ma era la dittatura, quell'eloquio del cazzo in cui stava lì a costruire comizi in cui parlava per delle ore arringando le masse, la folla, italiani, ma dai, ridicoli siete, ma vaffanculo, dai, patetici ancora oggi quelli che lo rievocano, secondo te patetici può giocare, più di lui. Secondo te dovrebbe continuare a giocare a pallone questo signore qua, questo Andrea Sbraga, questo giocatore del Novara Calcio, questo giocatore gioca Novara bene a pallone o no questo? Ma non lo so, gioca in Serie C con Novara, no. Apparentemente non nelle troppo. Nelle sue opinioni non ce ne frega niente. No, questo non c'è dubbio. Giocasse a pallone, non rompesse le palle, gli bloccassero la pagina Facebook, semmai Instagram, pagina sì, Instagram. Gli bloccassero quella, ma ovvio che deve continuare pare a giocare. Pare che abbia definito Benito Mussolini un grande statista lungimirante, sì. Pubblicando... Ma si occupasse di calcio, di quello che sa, cioè di giocare a pallone. Comunque è stato difeso, per esempio, dall'assessore allo sport di Novara, che sì, indovina sì. Di che partito è? Aspetta, fammi pensare un secondo. Dunque, Fratelli d'Italia? Fratelli d'Italia, sì. Scusami, non lo sapevo, ma ho tirato a indovinare. Scusami. Il ragazzo non ha scritto quelle parole, ma le ha riportate, copiando e incollando. Però ora sta subendo attacchi anche sui social sgradevoli e che travalicano la questione. Non ha assolutamente inneggiato al fascismo, ma ha fatto un post ironico. Beh, insomma, un post ironico. Adesso, se uno mette un discorso del Duce del 27, in cui diceva che le epidemie, no? Sui cinesi, le epidemie che continuano all'interno. Ma ritroviamolo, dai, questo discorso di Sua Eccellenza. Su, Sua Eccellenza è Sua Eccellenza. E dai, su. Cosa pazzesca, dai, pazzesca. Silvia da Parma, vai Silvia. Buonasera. Senta, io volevo parlare a proposito di Zai, eccetera, eccetera. Sì. Io seguo, purtroppo sono costretta a stare in casa parecchio, e seguo un programma che si chiama Marco Polo, che sono documentari. Marco Polo, sì, ottimo, mondo. Marco Polo, sì, dimmi allora. Ecco. Allora, se lei vedendolo, ci sono un sacco di documentari su tutta la Cina. Beh, allora partendo sì. da Hong Kong e si vedono i vari costumi di queste popolazioni. Beh, che, ragazzi, che se mangiano delle cose orribili, mi pare abbastanza evidente, no? Io volevo dire al signor Parenzo, che è parossistico nel suo perbenismo. Parossistico, bellissimo. Bella, bella parola. Accetto la sua dialettica. Mi piace molto. Mangiano anche questi animali qua, come mangiano i cani, come mangiano anche ma è fattuale, come direbbe Feltri, è fattuale. Ciao, no, ciao Silvia, ciao. Un'altra ciao. Cosa ciao. Che dimmi che c'è, ridere. che c'è. Abbiamo lanciato dunque, la musica così prima, dimmi. Parenzo è veneto, credo. Sì, allora? Sì, allora molto c'è veneto. Un detto che dice: veneziani, gran signori. Sì, va bene, Vicentini, Magliaganti, Veronesi. Vicentino offeso da questo detto. Vabbè, tra adesso l'altro. Che c'entra, non c'entra niente. No, sì, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Stavolta, ciao. Allora, caro Davide, abbiamo in collegamento una persona direttamente dalla zona rossa, da Codogno direttamente, che si chiama Eva e fa sostanzialmente, anche se non a tempo pieno, bisogna dire, e poi questo ce lo spiegherà, fa la prostituta, è una transessuale, credo che sia addirittura l'unica in quel di Codogno, credo, non lo so, ma magari ce ne sono altre. Buonasera innanzitutto, buonasera. Buonasera ragazzi, grazie per avermi invitato nella vostra bellissima trasmissione. Io mi sto sguardando, tra l'altro, a sentire i commenti. Cioè, mi mandano tutti a fare in culo, ragazzi, ma come mai? Cara Eva, posso chiederti quanti anni hai? Allora, lo dico solo perché mi sei simpatico, Gioia. Ne ho 40, appena compiuti, portati divinamente. Beh, ho visto delle tue foto, qualche ritocchino c'è, qualche ma ritocchino. Qualcuno, qualche proprio, ritocchino, qua la là. Signora Eva. La signorina. Allora, chiariamo subito una cosa. Come si vive, cara Eva, nelle zone rosse? Perché tu fai un lavoro particolare. E dunque la prima domanda che ti devo dire è: la vita normale, vabbè, lo sappiamo perché abbiamo visto un sacco di reportage, abbiamo sentito un sacco di persone. Ma la vita tua professionale come va? Clienti, siamo a zero? Allora, ci sono due, potrei parlare di due fazioni in questo senso. Allora, ci sono i temerari, io li chiamo, i temerari che non temono proprio che loro a pranzo un panino e poi vado dal travione, allora quelli sono proprio favolose, io le chiamo le temerarie, quelle che vogliono arrivare direttamente attraversare la zona rossa, superare i blocchi dei militari e io non ho capito se hanno un jet privato o rigorosamente senza guanto e senza mascherina. Cioè loro, praticamente sono quelli che ti chiamano da fuori la zona rossa, vorrebbero arrivare a Codogno a tutti i costi, però poi chiaramente non lo possono fare perché non si può entrare. Sì, cioè tutto questo alle 3 di notte ovviamente. Beh, chiaro, rompendo di coglioni come si direbbe, anziché no, rompendo di coglioni parecchio. E poi l'altra fazione? L'altra fazione invece sono quei poverini che si sono talmente intimoriti perché le mogli gli avranno rotto il tesoro, guarda, no, ma se esci muori, se esci prendi il coronavirus, e allora sono quelli un po' soggiogati, un pochino meno temerari e giustamente più accorti, che comunque è giusto così, perché voglio dire, un po' di paura ce l'ho avuto anch'io. In tutto questo, tra temerari e soggiogati, cioè quelli che le mogli / fidanzate non le fanno uscire, ci stai dicendo che c'è la grande crisi, cioè zero assoluto, o sbaglio, da una settimana? Sì, devo dire che effettivamente da una settimana qua io mi sto rompendo alquanto i coglioni, si può dire coglioni. Cosa che hai? Si può dire anche, certo, di peggio. Certo, ovvio, me li posso anche toccare, perché guarda, quando mi dicono le mie amiche è morto questo, è morto quello, gli dico ragazzi, meno male che ho tenuto i coglioni, almeno posso ancora grattarmeli. È quello che è una cosa. Senti, favolosa. Scusami Eva, ma posso chiederti una cosa? Quanto è lungo il tuo gingillo? Così, ma una curiosità mia. Guarda, io sinceramente non me lo misuro delle medie, perché ho perso questa abitudine, perché poi non si capisce, perché alcuni lo misurano dal sottopalla, che secondo me è sbagliato. Sì. Secondo me va misurato dal soprapalla. Giusto, giusto, bravo. Sì, c'è questa diatriba. Cioè, chi pensa di averlo più lungo o chi vuol dire di averlo più lungo se lo misura, diciamo, dal sottopalla, invece gli altri se lo misurano dal soprapalla. Bravo, vedi che tu hai capito tutto, uomo di mondo come sei. Senti, ma adesso la questione è questa: è davvero così? Cioè, è cambiato qualcosa negli ultimi giorni o è ancora una specie di coprifuoco assoluto, cara Eva? Tu esci o non esci? Questo è il punto. Allora, io vi dico la verità: io sono uscita solo per una cosa, per andare a comprarmi gli psicofarmaci in farmacia. Beh, perché senza quelli io non vivo. Veramente non vivi senza notizie. Come no, io psicofarmaci, sonniferi sono il mio pane quotidiano. Ma mi pare un ottimo stato di salute. Sì, no, ma perché ascoltami, o ti droghi o prendi i sonniferi, i psicofarmaci. È abbastanza comune, devo dire. Un po' di Lexotan. Poi la mia amica, che è carinissima, non posso fare il nome perché per carità, no, anche perché lei ricopre comunque un ruolo, una carica pubblica molto importante. E quindi la mia amica gentilmente mi ha detto: io vado al supermercato, ti serve qualcosa, tesoro? Gli ho detto: due bottiglie di rum. Però posso dirti, allora, tu pensi che sia uno scherzo, Parenzo, ma è assolutamente vero. Cioè, questa signorina qua, dell'età di 40 anni, è molto, molto spigliata, come vedi, è effettivamente di Codogno, abita a Codogno, fa la professione di prostituta e tra l'altro si è pure rotta i coglioni di questa situazione in cui Codogno sembra che siano gli untori d'Italia. Non sarà l'unica a vivere questa situazione. Io amo Codogno, cioè la mia Codogno per me è sempre stata un porto sicuro, capite? Ma sei l'unica a Codogno a esercitare da trans? Allora, se ufficiale diciamo pure di sì, poi vabbè. Le clandestine io non le considero neanche. Cioè, dici le extracomunitarie, dici? Le Sud Americans, lasciamole, come diceva la Minetti, lasciamole pure, ecco, insomma, lasciamole in station, ecco, diciamo. Senti, ma tu fai, ho detto prima, da quello che so, da quello che mi hanno riportato in un report, Parenzo, del mio report su questa ragazza. La Gabanelli, ragazzi, avete la Gabanelli? Con no, ho le mie informazioni, non fai la prostituta H24, cioè ti puoi permettere di non farla, diciamo, no? Sono stata fortunata, è vero. Sono ecco, stata ma come hai avuto un'eredità? Hai avuto... Non proprio un'eredità, però ho trovato il coglione di turno giusto al momento giusto. Ma veramente? Cioè sei praticamente mantenuta, l'ho capito? Sì, diciamo che sono un po' come la moglie di Berlusconi, diciamo, non a quei livelli sicuramente, altrimenti avrei avuto sicuramente... Ma non è un cliente, non è un cliente? No, assolutamente, è una persona, diciamo che non, ovviamente non può essere... menzionata assolutamente, figuriamoci. Però devo dire una persona di gran cuore, ho detto di cuore, di gran cuore, una persona che ti mantiene, una persona ricca che ti mantiene, diciamo. Ma non mi piace dire mantenuto, mi piace, a me piace parlare di vitalizio, che va più chic, no? Più è deep. Vero, sì, un vitalizio, sì, bravo, hai ragione, sì, un vitalizio. Comunque ragazzi, io mi sono già innamorato di questa Eva. Ci sono delle foto, devo dire troppi ritocchini in faccia, forse, posso dirti la verità. Ma adesso sono un po' calati, perché comunque ero arrivata a un punto in cui soffrivo di una dismorfofobia. Praticamente non era mai abbastanza e le mie amiche mi hanno dato un grosso aiuto in Cioè tu, dismorfofobia sarebbe quelle che si vogliono fare troppi ritocchini, cioè che sono malate di ritocchini. Ti vedi sempre praticamente un cesso, anche se sei praticamente e dunque arrivata. Ti facevi troppe cose. Io ero praticamente, era più il tempo che stavo in convalescenza che quello in cui uscivo. Ma infatti le foto che ho, cara, mi hanno fatto pensare a una specie, tu saresti perfetta per andare in quelle trasmissioni. So che non ci vuoi andare perché ho parlato con te, sei una persona anche molto molto che tiene molto la tua privacy. Sei una specie di Ken, sai il Ken quello, Ken umano. Il Ken umano. No, non proprio a quel livello, ma ci vai vicina, amica mia. Ci arriveremo. No, fermati. Senti, ma gli uomini che vengono da te, cioè questo grande sondaggio della Zanzara da tempo, cioè gli uomini che vanno a transessuali, ecco, sono più passivi o attivi? Ecco qua. Vabbè. Ma guarda, ti dico la verità, che penso che sia la verità, che potrebbero dirti anche tutte le varie altre. Sì. Io non ho molti contatti con le altre trans, perché sinceramente non te ne frega un cazzo. Veramente bravo, ecco, io sono una che non si ghettizza, poi giro sempre comunque in mezzo a persone. Sei tutta depilata, immagino, no? Completamente depilata, non esiste un pelo sulla tua pelle. Io non ho peli, non ho mai avuto peli neanche da adolescente. Che classe. Allora insomma l'uomo sei un po' infroscito, no? Ce lo prende dietro? Dillo anche tu, sei infroscito o no? A voglia, tesoro, me coglioni. Sì, cioè sono molti più passivi adesso rispetto a prima? Sì, secondo me rispetto agli anni, diciamo fine anni 90, perché comunque sono un 79, quindi fai conto che non è che mi sono svegliato dopo un giorno e ho detto che bello, voglio prendere il cazzo dopo un giorno, no, ho detto no, vabbè, a una certa età comunque. 79, 89, 99, fai conto già fine anni 90, ecco, comunque c'era una tendenza in cui l'uomo aveva veramente, era possente, no? Invece adesso sono più, lo vogliono prendere più dietro. Adesso sono più possente io, ecco, diciamo così. Dunque sei anche attivo. Evviva, no, ma questa è la realtà, sono racconti la realtà. Ma io dico solo la realtà, la dura realtà. La durissima realtà, la durissima. Molto dura. Ti abbraccio, a presto. Ciao tesoro. Grazie, ciao ragazzi. Ciao, un bacio. Viva Codogno, mi raccomando, avanti tutta, sempre, ragazzi. Dalla zona rossa una transessuale, dalla zona rossa la mitologica Eva. Non mollate, ragazzi. Andate da Eva, non la lasciate sola. A lei tanto non frega niente, perché tanto può fare a meno di voi perché c'ha il vitalizio. Però, insomma, dai. Bravo. Non la lasciate sola, però. Non la lasciate sola. Non lasciate Codogno solo, non lasciate Eva da Codogno da sola. Ciao. La Zanzara. Allora, lavaggio delle mani corretto in un minuto. Io qui già il sapone. Così. E poi così. Così. E poi intrecciate le dita bene così. Guardate, girate così le dita una sopra l'altra in un verso e anche nell'altro. Vedete? Così. Perfetto. Ecco, poi i due pollici, uno così e uno così. Poi con le dita stregate forte i palmi. Uno e due. Così. E poi così. Ragazzi, è la D'Urso che sembra che stia, non dico scopando, ma quasi, no, quando ma mostra. Vabbè, sì, ma come, Davide, ma mica ho detto che sta ammazzando qualcuno. Ma mica lo sto trattando come una criminale. Ho detto che c'è questa cosa qua del tutor delle mani, che fa da un po' di giorni, che tutta Italia in realtà fa da giorni, e sembra che stia facendo, che no, che stia trombando, stia facendo l'amore. Che cosa devo usare? Queste frasi, che stia facendo l'amore, caro sì, Davide? Ecco, dai, mamma mia, ma parla come mangio ogni tanto. No, mamma. C'era un mix, mi dicono, un mix. Intanto, senti che succede al TG5 delle 20. Devo dire che abbraccio fortissimo la mia amica, è una delle mie migliori amiche, Domitilla Savignoni. Bravissima. Ogni tanto sì, lo senti che succede, poveraccio. Ti abbraccio fortissimo. Ma però no, non hai il coronavirus. Domitilla è una delle migliori giornaliste, sì, vabbè, televisive, sì, italiane. Sì, però se dici così sembra che stai dicendo una cazzata. No, tutt'altro, è semplicemente una nostra amica. No, molto amica. Però senti che succede. Di più che un'amica, una sorella. Una... E che vuol dire che succede? Ma no, ma senti che succede, l'abbraccio. Ma cosa vuol dire? Ma non lo sai, tu manco lo sai. Sì, che lo so agire. Un invito a non avere paure irrazionali e anche a non avere comportamenti senza ragione. L'effetto virus sulle borse è drammatico. È stata la peggiore giornata di una settimana. No. Da dimenticare. Vabbè. Scusate, a tra poco. Ti abbraccio fortissimo, può succedere ovviamente, però non è malata, attenzione, non ha la febbre. Sta benissimo, dobbiamo andare. Non avere paure irrazionali e anche a non avere comportamenti senza ragione. La corte, c'è la tosse, un colpo di tosse. L'effetto virus sulle borse è drammatico. È successo anche a Montana, la tosse, ma di una settimana da dimenticare. Scusate, a tra poco. Mandiamo un abbraccio, Davide, sennò si incazza magari. Ti vogliamo non solo bene, esatto, ma quel tuo amico Cruciani è una brutta persona davvero, te lo voglio dire, caro Domitilla, una delle più brave giornaliste italiane. Ma una è una cosa di affetto. Peraltro, dai, colgo l'occasione anche per dire che nelle prossime settimane sarò proprio con Domitilla. Ma voglio proprio dirlo. Marco, no, da davvero, ma no, lo so, davvero. Ma non me ne frega un cazzo. Ma saremo le pagine. Giù, mercoledì giù, 11 giù, giù, Marco da Genova. Sì. Giù. Marco sai neanche da Genova, dove? Sì, lo so, lo so. Giù. Non sai neanche dove. Marco da Genova. Giù, in Puglia, dove cazzo è? Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi. Buonasera, io volevo portare la mia testimonianza. Io in un anno a sud della Cina, che è sotto l'Ubei, ho mangiato i topi, le cavi di topo, si chiamano. Ma Cruciani mangia le nutrie, di cosa parliamo? Ma infatti io non ho detto niente. Cruciani mangia un cibo proibito. Ma io non ho criticato da nulla. Da sporcaccioni. Ma io infatti non ho criticato quello che fanno dei i cinesi. Veneti, dei veneti in questa trasmissione dicendo, nella regione di Zaia, che mangiano le nutrie. Diteglielo a Zaia, i veneti mangiano le nutrie. E allora? In provincia di Treviso. Ma cosa alcuni c'entra? Ma il livello di igiene che c'è in Veneto è comparabile con quello, con quello che c'è in alcune regioni della Cina? Posso dai, dire una su, cosa ragazzi sola? Mamma mia. Ma voi avete la fissazione della serietà. Cioè, voi siete pazzi, voi siete dei giullari, ma volete che gli altri siano seri? Sei un gringos, sei un gringos. Dimmi, Carlo, gringos. Dimmi. Comunque, si mangiano i topi. Siamo tutti quindi dei mezzi giullari, mezzi, chi più chi meno. Poi volete che tutti siano seri, ma vaffanculo, uno ha detto sei la un roba gringo. Perché la realtà sei un allora gringo, sbagliato, sei non è presidente di sei è presidente un gringo, della regione. Sei vai, un gringo, cagare, sei Carlo, dimmi. No, ti dicevo, volevo dare questa conferma, tra l'altro vengono portati vivi al tavolo. E si chiamano tre grida perché il primo grido quando lo prendi dalla ciotola che è ancora vivo, il secondo grido quando lo immergi nell'acqua bollente e il terzo grido quando lo metti in bocca. Sei un gringo, sì. Ed è praticamente si procede in questo modo ed è una prelibatezza del sud della Cina. Questo come che cosa sarebbe questo? Cibi, che sarebbe? Si chiamano topolini tre grida. Se parli con un unanese in un anno sono 60 milioni di persone. Topolini tre grida. Tre grida, per via dei tre gridi. Ragazzi, ma la realtà, non so se sia vero o no, ma insomma la realtà. No, questo è vero, l'ho mangiato io. Topolini, tre grida. Tre ragazzi, grida. Questo è. Cioè, poi terribile, una roba terribile. Ma, okay, ma allora ha ragione Zaia? Ha ragione Zaia allora, Topolini, Zaia ragione, tre grida. Sì. Zaia ha ragione. Ragione, ragazzi, io non entro nella polemica perché i cinesi sono miei amici, io lavoro con i cinesi. Ma sì, assolutamente, però ha torto, però, ha torto, ha ragione. Ma che serve questa cosa? Ma non lo so che serve, ma zona, lasciamo perdere che sia Zaia, lo so che non si può perdere di vista questa cosa. No, è il presidente della regione, tesoro, è il presidente della regione. Ho capito, ma saranno cazzi suoi delle aziende, eccetera. Non è Cruciani, è il presidente della regione, ha rapporti con quei paesi, ha cinesi che vivono nel suo territorio, non è Cruciani. Vabbè, però i cinesi non si sentono offesi se dicono che non lo so, questo non lo so. Se gli dici che sono degli zozzoni sono contenti, vediamo, secondo questo, te questo vediamo, questo sai, sono molto permalosi i signori cinesi. Porca miseria. Allora, qualche minuto con uno dei nostri sessuologi, ogni tanto chiamiamo vari sessuologi, ancora, caro Parenzo, la signora Rosa Maria Spina, che saluto e abbraccio, buonasera. Buonasera a voi, una buonasera a tutti. Eccoci qua, col suo accento siculo. La senti calabrese. Calabrese, mi sono sbagliato, calabrese. E senti Rosa Maria, voglio capire una cosa, ma al tempo del coronavirus, tu che hai il polso della situazione, insomma, i tuoi clienti, le persone che senti, le tue ricerche, com'è il sesso? Com'è cambiato? Come sta cambiando il sesso? Tutti noi siamo più dentro casa, io no, non me ne frega nulla, però in generale. Sì, siamo un po' tutti dentro casa e un po' tutti presi dall'ansia e dalla preoccupazione, quindi ovviamente il sesso inevitabilmente ne rimane coinvolto. Ah, ecco, cioè, quindi se l'aspettativa si scopa peggio? Si scopa peggio? Peggio, sì. Cioè dici, le prestazioni risentono dell'ansia che abbiamo? Decisamente sì, perché è difficile, diciamo, essere tranquilli, non farsi prendere dall'ansia e dalla preoccupazione visto il clima generale che c'è. Non c'è dubbio, Parenzo, anche tu, anche per te c'è questa situazione qua, cioè tu risenti, no, sei ansioso e dunque le tue prestazioni sessuali ne risentono? Io non soffro d'ansia in nessun settore della mia vita. E dunque non risenti di questa situazione? Non credo ci siano lamentele in questo senso legate alle tue prestazioni da parte dall'altra parte dell'azienda, dell'altra, come dire, sì, componente dell'azienda, famiglia, sì, della famiglia. Esatto. Non mi risultano familiare. Non mi risultano lettere di richiamo. Potremmo dire tutt'altro. Adesso questo lo puoi dire tu, insomma, vedremo. No, nessuno si può per ora, per carità. Però potrà la cosa accadere. Interessante è questa, dottoressa, ecco. Spina, cioè qui la situazione è uno se sta più dentro casa ha anche meno possibilità, un single oppure chi ha magari una vita di coppia un po' stantia. Dunque che succede? C'è un aumento del sesso virtuale, della consumazione? Decisamente sì, è facile che in questo periodo il sesso si sposti online, quindi internet, chat, siti pornografici, anche quelli, una sessualità consumata o vissuta più in autonomia, più in solitario, quindi anche un aumento della masturbazione. Ecco, là volevo arrivare, cioè in questo periodo di coronavirus, non solo nella zona rossa probabilmente, ma anche in altre zone, soprattutto nel nord Italia dove ci sono restrizioni di vario tipo, c'è un aumento delle pippe. Ecco, io lo dico in maniera un po' chiara. Possiamo dirlo. Diciamo che in realtà per l'autoerotismo ogni scusa è buona. Quindi in questo momento in realtà l'occasione si presta benissimo. Hai capito. Anche perché per l'autoerotismo ovviamente l'ansia da prestazione non ha nessuna valenza. Ecco, ma io ho sempre voluto sapere una cosa. Che secondo lei, secondo insomma anche le persone che vengono da lei, l'autoerotismo maschile e femminile adesso prescinde dal coronavirus. Fa diventare ciechi? Ma chi è che cioè, chi frequenta di più questo tipo di, gli uomini o le donne, oppure siamo più o meno sullo stesso livello? Più o meno siamo sulla stessa percentuale. Fortunatamente, mi viene da dire, da qualche anno a questa parte anche le donne praticano liberamente autoerotismo, lo ammettono e non se ne vergognano più. Perché prima se ne vergognavano un po'? Se ne vergognavano, e quindi ma chi lo praticava tendeva a dire no, io non lo faccio, mai fatto in vita mia. Le donne, oppure sì, realmente molte donne non lo facevano perché lo consideravano come una cosa disdicevole, quindi o la sessualità vissuta in coppia o in autonomia, non è stesso. Beh, per esempio una persona che ogni tanto viene qui dice a me la masturbazione non piace, che per me è incredibile, cioè che una donna non si masturbi è pazzesco, però effettivamente secondo me è meno diffusa tra le donne la masturbazione che tra gli uomini. Non ha anche lei questa sensazione? Le donne sono meno abituate, perché comunque l'uomo e i bambini anche iniziano già da giovanissimi, perché diciamolo così chiaramente è tutto un po' a portata di mano, quindi è facile scoprire il proprio corpo. Le donne a portata di mano non hanno nulla, e quindi prima di scoprire questa forma di piacere ci mettono un po' di più. Beh, ci sono le dita, in teoria non è molto complicato. Signore mio. Insomma, teoricamente complicato non è, ma poi in pratica lo diventa, perché ancora ci sono molti fattori sociali e culturali che uccidono. Ma come, la donna che pratica la masturbazione? Come, sì, ah, no, certo, no, ma assolutamente. Allora, assolutamente, ancora non se ne può parlare. Un'ultima cosa. Stiamo uscendo. Assolutamente, un'ultima cosa è questa qua. Allora, la prostituzione, noi ne abbiamo parlato molto in questi giorni, e anche quella ne risente. Abbiamo sentito prima zero clienti di una transessuale prostituta, escort, chiamiamola come vogliamo, proprio lì a Codogno, ma forse questo riguarda tutta Italia o no? Sì, diciamo che con questa psicosi un po' da coronavirus è tutto il mercato generale in crisi e anche il mercato della prostituzione. Ora c'è molta più diffidenza, anche perché, diciamolo chiaramente, è vero che molti clienti che vanno con escort e prostitute chiedono di non utilizzare il preservativo. Addirittura, molti. Quindi, ancora. Sì, ancora. È ancora molto diffusa questa richiesta. Vabbè, quindi immaginiamo in questo periodo che cosa potrebbe scatenarsi. Allora, molti uomini preferiscono proprio evitare invece di ritrovarsi poi in situazioni che potrebbero essere, diciamo così, non facili da gestire. Allora, la mia amica prostituta Susanna della Salaria di Roma dice: io lavoro benissimo con i miei romani belli, io lavoro alla grande, e sei un'eccezione perché sei a Roma, vieni al nord e c'è una moria di prestazioni delle prostitute. Esatto. A Roma ancora siamo un po' in un'isola felice, anch'io vivo e lavoro certo, a Roma. Assolutamente. Quindi a Roma ancora si fa molta ironia, si fanno molte battute, volemo se bene, insomma, come si suol dire, e quindi ancora riusciamo a cavarci. Vabbè, ma da Roma in su la situazione è meno tranquilla. Ciao, un abbraccio. Ma a voi, arrivederci, buona dottoressa. Serata. Buona serata, cara. La Zanzara. Lo sai, ho parlato con Boc. Ha detto che la moto vanno a fanculo. Piezze e merda. Un invito a non avere paure irrazionali e anche a non avere comportamenti senza ragione. L'effetto virus sulle borse è drammatico. È stata la peggiore giornata di una settimana. Da dimenticare. Scusate, a tra poco. Scusa, però. La cosa incredibile. Invece di verificare le sue condizioni di salute dopo questa piccola tosse che ha. Ho sentito il compagno avvocato Truppo, è tutto a posto. Ha un po' di tosse, no? Sì, però la cosa curiosa è che la cosa curiosa è l'inizio. È l'inizio, perché dice non bisogna avere paure irrazionali. Boom. Ma è una grande professionista che è arrivata fino in fondo. Che succede? Non infierite dietro il vetro, dai. È arrivata fino in fondo, la grande professionista che è arrivata a leggere fino all'ultima parola. Questo dovresti dire. Questo. Ragazzi, come vedete, Martina è un po' malata. Sì, è un po' di tosse. Perché ha fatto un po' di troppi deep throat. Questo. Non capisco che relazione ci sia tra quel colpo di tosse e quell'altro. Sei veramente il colpo di tosse di Martina Smeraldi, della porno star, la nuova starlet. La verità, la realtà si tossisce dappertutto. La verità, la realtà. A proposito di verità e di realtà, io chiamerei quella signora di Napoli che si è messa a inveire contro l'autobus proveniente dal nord, a Ischia. Ci manca una persona normale, no? Uno normale. Chiamiamolo, ma non si possono fare discorsi normali oggi. Nessuno è normale. I presidenti di regione ti sembrano normali? Abbiamo sentito diverse cose in questi giorni. Zaia, che pure secondo me non ha nemmeno tutti i torti, però appare come uno spostato in queste ore, no? Fontana, che mette la mascherina e si copre anche la faccia, sbaglia, eccetera. Ti sembra normale? Dai, su ragazzi, poi dai a noi degli anormali. Tu pensi che noi siamo anormali o mettiamo in onda gente anormale? Spesso, rispetto alla realtà della politica e non solo della politica, le persone che chiamano qui sono normalissime. E dai, su, me ne devi dare atto di questa cosa, no? Dammene atto, dammene atto. Invece non me ne dai atto, non me ne dai atto, è incredibile. Com'è che si chiama? Vai, sì, vabbè. Dai, dai. Pronto? Teresa? Sì. Sì, buonasera, qui Radio 24, come stai? Diciamo, non tanto bene. Che è successo? Sei in mezzo ai casini? Mi sa di sì. Perché? Che è successo? Ti vogliono denunciare, no? No, denunciare per fortuna no, però non la vedi la mia immagine a livello nazionale. Amica mia, ti criticano perché tu sei stata lì sotto quegli autobus a fare un casino pazzesco, è normale. Lo so, però sai, con tanti problemi che ci sono oggi, dici ma che cavolo, proprio me, poi ero sola, capito? Non è dici che io magari sono un personaggio politico, sono Ho capito, però sai, quando, quando... Io sono una libera cittadina che esprime la sua opinione. Ma per carità, no, però scusami Teresa, se uno va, arrivano degli autobus di turisti, no? Dei pullman dei turisti, uno va là sotto dicendo controllate i documenti, noi qui non vogliamo quelli del nord che vengono qui, eccetera. Non è che io ho detto che non vogliamo quelli del nord, per carità, no. Quelli del nord sono sempre venuti qua sull'isola di Santi, sono venuti non solo quelli del nord, vengono persone da tutte le nazioni del mondo e noi le abbiamo sempre ospitate in modo eccellente, per carità, io sono la prima che li ha accolti, tutti i turisti di tutte le razze in albergo con tanta gentilezza e sono disposta ancora a farlo, per carità. Io se fossi stata razzista, dico io, sarei andata ogni giorno lì magari a bloccare quei ho capito, quei però pullman. Hai detto i razzisti siete stati voi, i razzisti siete voi, perché dal pullman non si sente, però mi chiamavano razzista perché io gli stavo chiedendo di dirmi da dove provenivano, ma non perché sono razzista, perché volevo dei controlli. Però amica mia, i controlli li fanno le autorità, cioè ci sono le autorità che fanno appunto i controlli e tu non è che puoi andare lì a chiedere, non è che sei della polizia o dei carabinieri o della secondo te? Ho molta paura perché io sono solo una mamma preoccupata per i suoi figli, per la salute dei bambini. Qui non siamo organizzati sull'isola, per cui adesso che cosa vorresti? Vorrei una cosa a caldo. Vabbè, d'accordo, urlando la mia rabbia, purtroppo su questo hai ragione, ti do ragione. E però, comunque, che cosa vuoi dire? Mi potete criticare, però non mi dovete insultare gratuitamente. Purtroppo io vengo insultata gratuitamente, mi dicono di andarmi a far curare, che sono gentaglia, speculatrice, mi hanno detto che devo morire, proprio le persone che mi accusano di razzismo mi stanno insultando, per cui adesso mi sono un po' stancata e mi sono anche impaurita. Ma sì, ma io non ti sto dicendo che tu sei una sporca razzista che devi morire e vaffanculo, non ti sto insultando, ti meno sto male, dicendo, ma per carità, ti sto dicendo un'altra cosa, però che hai fatto, hai dato l'immagine su quel porto davanti a quegli autobus. Io ho dato l'immagine l'immagine di una popolazione, di una parte della popolazione, di te stessa, no, che vabbè, in ma parte sì, io, di gente che vuole io respingere i lombardi e i veneti perché sono portatori di malattie, questo è il punto. Allora mi scusi, voglio chiarire anche questo punto, perché se non si capisce bene, allora nel video ad un certo punto la signora mi dice vengo dalla Liguria, io mi avvicino perché non avevo sentito e le urlo, signora di dove siete? Appunto. Allora nel mio dialetto di dove siete di vuol dove dire signora da dove venite, a me non me ne importa, io voglio sapere perché non vi stanno controllando. Ma non è vero che non li controllano, che ne sa che non li controllano? Sì, è perché io stavo sul porto e ho chiamato io le forze dell'ordine e non ho visto, ma con scusi, i miei signora, occhi nessun ma controllo. Non è che è vietata la circolazione in Italia oggi delle persone, uno che parte da Bergamo però, o parte da Milano italiano, può venire a Ischia. Certo, è un libero cittadino italiano, dunque, può esprimere la propria opinione se non è d'accordo con queste misure. E dunque secondo lei andrebbero bloccati i porti? Dillo sinceramente. Secondo la mia opinione, ma i porti bisognava chiuderli per permettere temporaneamente, perlomeno per permettere ad un'isola limitata a livello sanitario di potersi organizzare per adottare misure preventive necessarie a limitare un'eventuale epidemia. Però, per fortuna, perché questo è quello che si vede dai telegiornali, questo è quello che si vede a livello internazionale, che si tratta di un'epidemia internazionale. Allora non fate entrare un po' una carovana di persone che viene spendendo dei soldi da Bergamo, dal quotidiano Libero Ma nessuno sta dicendo che non dovevano venire, potevano anche posticipare. Lei per esempio, il signor Feltri, lo farebbe entrare a Ischia? Feltri, il direttore del quotidiano Libero. Ma mi scusi, guarda adesso tutte queste domande, chi è che adesso parla di me? Sento questa voce fastidiosa e meridionale che arriva dal sud, che dice che non posso andare nell'isola, ma io me ne frego e rimango carità, a Bergamo, ma io me ne foto, perché lì peraltro ci sono speculazioni edilizie, gente Bravo, che urla, bravissimo, la mattina, lei ha ragione. La mattina io mi sveglio alle 11 e sento gente in strada che dice a chi tocca, ma è una cosa, io rimango a Milano a dirigere Guardi, il mio giornale che si chiama Libero. Anche il modo, anche il modo di parlare, mi scusi, ma poi vi commentate tutta da solo. Tutta gente maleducata, mamma no, mia. Vede, sta lei, è lei che sta facendo di tutta l'erba un fatto. Me ne sto, me ne frego, o mi fate parlare oppure vado via. Vado via se mi invitate per non parlare con questa signora. Signore. Tecnicamente è meridionale, io dico le cose come sono del sud, di Ischia. È una meridionale, si dice, non è offensivo dire che è una... Non ho mica detto che è una terrona. Ho detto che è una meridionale. Scusi, lei che modi sta io sono di Bergamo. Io sono Vittorio Ferro. No, io sono io. Mi interrompe. Ma cosa? Anche lei sempre. Mi sembra sta utilizzando dei toni molto accesi. Ma mi invitate, poi mi interrompete. Io sto dicendo che sono una libera cittadina che esprime la propria opinione. Lei invece mi sta insultando a voce alta. Questo è Feltri. Non ha capito che io su quel posto ero da sola a fare una protesta. Al sud, c'è sempre gente che mangia tutte le ore. Io vado in spiaggia alle 9 del mattino e vedo questi che si mangiano il timballo di carne. È una cosa incredibile per me. Io sto a Milano e non mi muovo da Milano. Al massimo vado a Milano Marittima, perché c'è la parola Milano, anche se è in Romagna, e lì non ci sono persone che urlano a tutte le ore a chi tacca, a chi tacca. Scusi Petri, perché lei li chiama terroni? Ma non mi sembra di offendere nessuno, io li chiamo e li chiamo. Infatti, io i froci li chiamo froci, i negri li chiamo negri e i terroni li chiamo terroni, ma non mi pare di dire niente di particolare. Però, ma... appunto, signor Feltri, io sono andata sul porto per difendere i miei diritti, lei mi sta insultando gratuitamente invece ma per difendere che cosa? Urlate sempre, urlate al sud, urlate sempre. Ma urlate, lei in questo momento che cosa sta facendo? Sta urlando o sta parlando? Io parlo sempre con voce determinata. Del nord, del nord, cioè, ma a me non me dicendo. Ne frega niente, a me non me ne frega, mi invitate, non me ne frega niente. Ma a me, scusate, nulla, ma voi niente. Avete chiamato me, cosa mi avete chiamato a fare che mi dite non me ne frega niente? Ma nemmeno a me me ne frega niente. Ma mi invitate, ma io me ne sto qui a dirigere il giornale, ma mi hanno telefonato, non me ne frega niente di quello che dite. Ma per Dio, se n'è andato, se n'è andato, se n'è andato, se n'è andato, andate via, se n'è andato, vabbè. Arrivederci, grazie, arrivederci, grazie. Arrivederci. Che vuoi fa? Che vuoi fa? Che vuoi fa? È così, Filippo da Treviso, vai, Filippo da Treviso. Riesco a capire poi come fa quello lì a chiamare il direttore ogni tanto. Era collegato, era collegato. Perché pronto? C'ha con te una linea speciale, beh, che, certo, che gli dici di telefonare. Sì, cioè, certo. Vergognoso. Intanto voglio leggerti una cosa. Io non sono nessuno, musica per favore. Io non sono nessuno. Io non sono nessuno e sono stato soltanto un cittadino italiano ignoto. Non ho qualcuno, non mi ama nessuno. Sono il demone dell'universo infinito. Sono l'arcidemonio dell'oblio, il demone del caos. Io ne manco esisto, ne manco mai sono esistito, neppure esisteranno forse per me i posteri, in caso finisca il mondo prima. Non sono nessuno, questo è quanto. Sussurro musiche ed ho dimenticato il rimpianto ed il pianto. Sono già morto, fra le braccia e la falce di morte. Fine. Ti ricorda qualcosa? Sono il demone dell'universo infinito? Demone io scimmia. Non sono nessuno. Vai, demone scimmia, avanti tutta. Dove siamo? Filippo da Treviso, vai. Filippo, dimmi. Allora, intanto ho sentito poco fa Feltri che insultava tranquillamente i terroni chiamando i terroni e fa benissimo. Io li posso dire a lui che è un vecchio masculopatico. Ora, al di là di questo, chiamo un vecchio, non c'è qui per replicare. Non è qui a replicare. Non c'è qui per comunque, replicare. Vabbè. L'ho sentito poco fa, vabbè, ma ho capito, amico mio, non può replicare e tu che cosa gli dici? Ma chi è che parla al telefono adesso? Chi è che parla al telefono? Ah, è tornato. È rimasto collegato, sì, è rimasto collegato. Non sapevo che era collegato, era ovvio. Maleducato cretino che nessuno parli è maleducato qui, telefono, qui ti dicono le cose come stanno. Ma gli hai detto che è un vecchio adesso, gli hai detto Filippo, vabbè, su, non rompere i coglioni. Lo chiama negri negri, io non posso dire che è un vecchio. Io dico delle cose che fattuali, posso chiamarlo un bambino, come? Non mi sembra. Ma io ho detto semplicemente che il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è un negro, mi pare. E va bene, ma io sto dicendo che sarà pure un negro, ma il capo della sanità. Ma mi interrompi sempre, ma vado via, ma andate a fare il culo, me ne vado via. Ma sì, arrivederci. Vabbè, Filippo, è l'ora di dormire. Comunque io chiamavo per un altro motivo. L'hai fatto andare via. Vabbè, dai, pazienza. È l'ora di andare a letto per lui. No, io ho chiamato perché abbiamo sentito un signore di Catania. Peraltro anch'io sono di Catania. Io ho abitato 10 anni a Trieste, ora sono qui a Treviso e lavoro in ospedale come anestesista. Vabbè, in allora... E niente, questo qua va a dire: veneti non si lavano, longobardi non si, non si lavano. Ma come cazzo si permette? A parte che qui in Veneto è strapieno di terroni e catanesi. Ma anche tu mi sembra, anche tu mi sembra che non sei proprio veneto purissimo, diciamo. Esatto, dicevo che sono di Catania. Appunto, dico. Esatto, quindi per dire, come si permette a dire lui di giù, il piccolo catanese che non è mai uscito dalla porta di casa. Stava un po' provocando, stava dicendo che non vuole contatti in questo periodo con i lombardo veneti. Ma è stupido, perché tanti contatti già ci sono. Più se ne cercano e più se ne troveranno. Stefano da Prato, Stefano da Prato, vai Stefano. Capito? Dimmi Stefano, dimmi. Sì, pronto? Dimmi Stefano, dimmi. Sì, buonasera Luciani. Vai. Senta, io sono voluto intervenire perché prima, un paio d'ore fa, ascoltavo la Zanzara sull'argomento del coronavirus, eccetera, eccetera. Sì. Allora? Ma ora io sono un po' fuori forse argomento, non so, ma mi sembra che... si stia perdendo la festa con questa storia per un motivo molto semplice. Perché? Dimmi. Si sta dando addosso all'altro, sta diventando razzista un'altra volta come negli anni 50-60 quando si è riaperta la grande questione nord-sud, forse come dice il signor Lagorte non è mai finita, però in ogni caso c'è, capita, della tra nord e sud c'è sempre un'opposizione latente, ogni volta che scoppia qualcosa c'è sempre qualche focolaio, hai visto a Ischia che succede, no? Vari sindaci, quell'altro che vuole arrestare quelli che vengono dal nord, il governatore della Campania che secondo Parenzo giustamente vuole arrestare quelli che vengono dalla zona rossa, semmai entrano in Campania. Stefano da Roma, vai, Stefano da Roma, dai, Stefano, dimmi. Pronto? Sì, dimmi. Io volevo parlare di una cosa. No, fermola. Vito da Bari, fermo. Si sente male. Vito da Bari, dimmi, Vito, dimmi. Niente, io mi sono rotto i coglioni. No. Sì, però sei col viva voce, con l'auricolare, amico mio. Viva voce, auricolare. Okay, allora parlo così. Allora mi sono rotto i coglioni di nord e sud. Io dico solo che siamo un paese, una delle democrazie occidentali più liberali del mondo. Marco da Milano, si sento male. Ormai Marco sono sento male. Direttore Marco da Milano, vai Marco. Buonasera, vai. Direttore. Buonasera, direttore. Grazie per aver chiamato. Almeno i telefoni si sentono bene, dimmi. Buonasera, direttore. Ma non è Marco da Milano, è Marco allora, da Milano. Vai, che mi occupo di turismo, in particolare rapporti con i tour operator e le agenzie di viaggi per mandare specialmente clienti all'estero. Dunque? I danni, io non parteggio certamente per il centrodestra, questo tanto per chiarire a Parenzo che poi potrebbe dire le sue solite cose. Il governo di oggi sta facendo dei disastri incommensurabili. Tra l'altro... vorrei far notare la solita cosa che abbiamo detto in questi giorni. Ma il signor Parenzo, io ieri personalmente ho dovuto contattare la redazione del Corriere della Sera di Repubblica che hanno dato notizie assolutamente sbagliate e scorrette. Cosa? Italiani hanno detto che le Maldive erano state chiuse al pubblico, al turista italiano. Amico mio, però qui non è lo sportello delle proteste per i turisti o per le agenzie di turismo. Già abbiamo parlato del fatto che il settore è in crisi per una serie di motivi. Ne abbiamo parlato in questi giorni. Adesso cosa vuoi aggiungere? Via. Nulla. C'è chiuso. Solo da dire una cosa in conclusione di questa trasmissione questa sera. Bravo. Italiani! Italiani! Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fotterseni di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. L'effetto virus sulle borse è drammatico, è stata la peggiore giornata di una settimana, da dimenticare, scusate, a tra poco, è drammatico, da dimenticare di una settimana.